No, io sono uno storico revisionista e mi piace Mussolini sicuramente. Soprattutto ha dato dignità alle famiglie, perché ha fatto in modo che le persone si sposassero dividendo gli uomini dalle donne, per esempio, sì, sui campi di concentramento. I campi di concentramento esistono oppure no? Sono esistiti i campi di concentramento secondo lei? Ma che cazzo dici? Non dire cazzate. No, figurati, allora dobbiamo, gli ebrei si sono suicidati, erano così stronzi che si sono suicidati. Ma che cazzo dici, Finocchio? Stai zitto, non rompere i coglioni. Onore a Benito Mussolini e vaffanculo a te! La zanzara. Tutto il resto è gioia. Hai capito, figlio di puttana? No, non ho detto gioia. Signore! Signore, signore, signore, raccogli quei figli. Oh, perché da bere e bevete? Crocifiggilo, crocifiggilo, disse loro Pilato. Prendetelo voi e crocifiggilo. Io non trovo in lui nessuna colpa. E così come abbiamo annunciato, desideriamo adesso rivolgere una preghiera per tutti i nostri defunti, per tutti coloro che sono morti anche a causa del Conad, ma soprattutto... Da Conad non trovate dei semplici soci. Per tutti coloro che sono morti anche a causa del Conad... Matteo! Volevo dire di quel prete che ha detto che non bisogna pagare le multe, andare contro i servitori dello Stato. Ma ho capito, ma che vuol dire? Cioè, questo qua non è che è andato contro i servitori dello Stato, che... Allora, ce ne sono due di casi, un prete... Il prete, quello del prete, già non paga le tasse, ma deve dire anche di non pagare le multe. E, sono intervenuta la polizia e i carabinieri dentro la chiesa e lui ha continuato a dire messa su stesso. Io l'avrei manganellati se fosse dalla polizia. Manganellati addirittura, cioè avresti fatto la carica della celere dentro la chiesa. Sai, è che normale. Sarebbe successo un casino, la carica della celere. Pensa che sarebbe successo. È normale. Andiamo pure. Io sono una vita che t'ascolto, si capì, ed eri una persona, io una volta ti ho dato del depravato, sì, una ricordo, volta, 5-6 anni fa, sì, ma mi sono sbagliato, tu non sei un depravato, tu sei un pervertito, Giuseppe. Ma tu, perché, scusa, perché? In anno, quando ce l'hai lungo, ma che trasmissione fai quando ce l'hai lungo? Adesso che c'entra? Un buco du cul, ma che cazzo di cristiano sei diventato? Esatto, che cristiano sei? Ha ragione, su questa ragione, interrogativo giusto. Saluto l'amico mio Manuele che lavora a Cetrini. Ma chi se ne frega adesso? Saluto un amico mio. Ma no, ho capito, ma non è che... Ma che è la trasmissione privata questa? Ognuno saluta gli amici suoi, ma che roba è? Venite sempre con la DHL, avrete sempre i pacchizzani e tutto. Ciao, vaffanculo al corno da sordo. La marchetta di DHL. Ci sentiamo un'altra volta. C'è la marchetta di DHL, ciao. Va bene, dai, saluto l'amico mio Manuele che lavora a Cetrini. Perché te devo salutare a te? Saluto un amico mio. Io direi, Salvatore, se mi accendi la lucetta rossa, di partire immediatamente con la prima telefonata. In diretta dal bunker di Viale Monterosa, non guardiamo più questo cazzo di dati, non li guardo più e resto in diretta, non voglio nemmeno guardare, guardo solamente i dati dei ricoveri in ospedale e dei ricoveri in terapia intensiva, gli altri dati nemmeno li guardo, altrimenti vengo qua, e mi schianto con la macchina, capito, direttamente contro un muro. Comunque siamo qui, vivi e vegeti, avanti tutta, in diretta invece, autoapplauso, autoapplauso. In diretta dal bunker del Mossad, ricostruito, rifatto, ma non ce n'è più bisogno perché a Roma vivete sonni tranquilli. David Parenzo, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera cari amici, a tutti i radioascoltatori di questa Radio 24 meravigliosa. Un'emissione straordinaria dal lunedì alla domenica, tranne che dalle 18.30, tranne che una radio straordinaria, sorella di un grande giornale, di uno dei più importanti quotidiani economici d'Europa. L'unico cosa? Problema del gruppo è che dalle 18.35 alle 20.50, dal lunedì al venerdì, tutto questo viene sporcato. Da una trasmissione che col palinsesto di questa radio, lo voglio dire contro il mio interesse, non ha nulla a che fare. Ma sì, ma certo. Io lo voglio proprio dire. Ma ecco, dillo, esatto, dillo, questo, fammelo ribadire, sì, in diretta. Che potrebbe sembrare una cosa oggi contro il mio interesse. No, perché mi è venuto in mente, perché riascoltando in questa copertina di pochi minuti che la Corte e voi tutti a Milano avete confezionato, è una trasmissione agghiacciante. Ma mi vergogno anche di quello che ho detto io. Cioè, io non mi riascolto mai, perché altrimenti quelle rare volte che capita, mi vergogno per quello che ho detto. Mi vergogno per le parolacce che mi fai dire. Questo è il grande tema. Comunque buonasera a tutti. Ma perché questa è l'unica trasmissione in cui ci sono i conduttori, ripeto, che si insultano a vicenda. Esatto. E uno vorrebbe far chiudere la propria trasmissione. No, ma si delegittimano, si delegittimano dicendo tu sei così, tu sei un radical chic, tu sei un populista, sei una merda, eccetera. Ma detto, e in più uno dice che bisogna chiudere, ma vaffanculo, cioè è una cosa pazzesca, guarda. No, ma non solo, sarebbe come se io facessi, come tutte le estati faccio in onda, e dicessi questa trasmissione dovrebbe andare in onda. Assurdo sarebbe, no? Se io dicessi caro Cairo, non mandare in onda la trasmissione, è incredibile, no? Sarebbe folle, sarebbe probabilmente. Però barista, in questo caso aspetta, va detto. Barista, aspetta, c'è un barista. Allora, mi ritolgo la mascherina, mi rifermo e anche oggi sono assolutamente incazzato più di ieri. E che è successo? Facciamo un video non di politica, ma vogliamo spiegare a questi maiali, pezzi di merda, teste di cazzo, rotti in culo, froci, bastardi, come funziona un'azienda. Ma perché? Secondo te questo qua è uno adatto a questa emissione radiofonica, questo signore David? Secondo te questo qua è uno adatto? No, allora, no, è un no, video che no, impazza sull'internet. No, no, è un video che impazza sull'internet, no? Cioè, per esempio, c'è anche questo in questo video. Ti faccio sentire questa roba qua. Cioè, perché è molto grave questo signore, è molto grave. Tu dici perché lo metti in onda? Lo metti in onda perché è una. Poi dici che è molto grave. No, è incredibile. Dico, cioè, metto in onda perché cosa... è molto grave quello che molto dice grave. Dunque, perché la cosa abbia una sua. Cioè, perché ci siano dei provvedimenti, delle ripercussioni. Ma quale provvedimento? È molto grave che tu lo mandi in onda. Aspetta, molto grave. Io non ho detto né nome né cognome. Un barista incazzato, così, generale. Figli di puttana! No. Siete dei figli ma chi? Di puttana! Il governo, vi chi? Dobbiamo mandare al macello, ma macellare no, per la strada! Cosa dice? Voi dovete avere il senso di responsabilità ora, come noi l'abbiamo avuto pagando tasse, contributi, IVA, INPS, IRPEF, FIB. Ci avete massacrato di tasse quando c'è il momento del bisogno. Venite a dire aprite, ma come cazzo possiamo aprire questo? O si istituisce un governo popolare con rappresentanti del popolo che sono intelligenti, capaci, conoscono la vita. Conoscono la vita di un bar, di un ristorante, perché fanno 30 ore al giorno, perché si fanno il culo, perché lavorano dietro un banco, perché vanno a fare la spesa, perché spendono la benzina, perché sanno cosa costa un'azienda, o altrimenti con questi professori del cazzo che non hanno mai lavorato un giorno in tutta la loro vita o gestito neanche un bar, noi siamo destinati alla fine. Carica, questo sta caricando a testa bassa, a testa bassa, amico mio, a testa bassa, senti, a testa bassa. Un po' esagerando, naturalmente, no? Ma che succede? Noi ma se nella vostra casa entrano 3.000 euro al mese e ne mettete 1.000, come fate a pagare la luce, le spese? È la stessa cosa un locale! Teste di cazzo, capito? Figli di puttana, ma siete scemi! Allora, passiamo ad avere sentito un po' di rabbia popolare, che c'è comunque, adesso, al di là del caso singolo, c'è questa rabbia popolare, capito? Esiste, cova questa rabbia popolare, di persone che ancora sono chiuse, che non hanno prospettive e che naturalmente vedono avvicinarsi l'abisso, caro David. Cioè, non tutti si fanno servire i cocktail sul terrazzino da un cameriere di colore per rispolverare una vecchia polemica. Ecco, ma non c'è mai stato nessun... Io ho letto il quotidiano libero, è una... Ma quelli hanno pubblicato una buffa. Io li querelo, io ti assicuro, ad Angelucci gli porto via tutto, che è l'editore del giornale. Agli Angelucci gli porto via tutto, perché tu io hai diffuso sul scherzi. Quotidiano ma libero, no, sul quotidiano libero, lo... riportato da questa trasmissione, ma non mi ricordo quello che è stato detto, che tu sei stato servito da un cameriere di colore. Sul terrazzo di casa sua, sull'ampio terrazzo di casa sua, ma io ho visto un titolo sul quotidiano libero. Che ti sì, devo ma fare? Ho capito, è una balla colossale. Tu hai detto una balla, tu perché stavi scherzando. Io ho detto quelli quello di che ho libero visto. L'hanno presa come. Ma cosa? Non è possibile che tu abbia visto niente. Vabbè. Poi qualche stronzo ha fatto pure un fotomontaggio dove ha messo un signore di colore che sembra un infermiere, peraltro, che mi porta una pozione verde schifosa. Io non ho personale di servizio di colore. Questo lo voglio confermare. Adesso domani Libero dirà: Parenzo razzista. Vabbè, certo, non ha personale di colore. Certo, adesso dirà un'altra cosa, girerà, dico: no, ho detto semplicemente. Vuoi dire che non hai personale di colore? No. Perché che cos'è? No, ecco. Cosa c'è di male? No, ma non c'è nulla di male, ma ho risposto a te che mi hai attaccato dicendo che ho un personale. Ma è una cosa, è una trasmissione. È da chiudere. Posso fare una bella... Potete chiudere per piacere questa cosa? Ma non è possibile. Presidente di Confindustria, ma non se faccio un appello a tutti quelle persone di buona volontà, per piacere, allora, per piacere. Cioè, sarà poi un problema per me, sicuramente, questo non c'è ombra di dubbio. Anche psicologico, perché non diciamo, lavoro anche psicologico, perché alla fine mi fa anche piacere venire qui due orette, parlare, raccontare. Però non è più possibile andare in onda in questo modo. Non è più possibile, cioè, io lo dico per il paese proprio. È una trasmissione che distrugge il paese, il senso civico. Allora c'è il tema, insomma, adesso non esageriamo, il tema sono temi, magari sono altri. Finalmente, sì, bello, vuoi commentare l'intervista di Tito Boeri su Repubblica? No, sì, allora partiamo. No, ma cosa partiamo? Ma di che? Niente, ma non Boeri, gliene frega un cazzo a nessuno, qui la gente due ore e mezzo si vuole divertire a parlare un po' di cose umane, di cose Boeri. Serie. Vogliamo parlare del MES e di quello di cui discuteranno i capi di Stato e di governo? No. Allora, si discute giovedì. Del fatto che in una chiesa siano entrati a un certo punto l'altro giorno dei poliziotti o dei carabinieri e abbiano interrotto una funzione, il prete si è rifiutato ed è andato avanti. Don Lino Viola, la difesa di Vittorio Sgarbi a spada tratta dice che non si devono permettere di interrompere la funzione. Posso dire, ragazzi, che a me di questa cosa qui non me ne frega un cazzo. Il prete poteva farla questa funzione? Probabilmente no, non poteva farla. I carabinieri hanno visto un assembramento e sono entrati dentro questo luogo. Cosa devono fare? Se vedono un gruppo di persone, le direttive sono quelle. Caro Vittorio, di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Dici un paladino della libertà. Va bene. A me piacciono i paladini della libertà. Però non si possono accusare le forze dell'ordine come fa lui, no? Dice la resistenza, Sgarbi. Ammirazione per Don Lino. Va bene, ammiriamolo. È andato avanti, vuole fare la messa a ogni costo. Non frega un cazzo a nessuno della messa oggi. C'erano 10 persone là dentro. È un non problema. Se la polizia però vede 10 persone insieme nello stesso luogo, si agitano, entrano. Magari hanno esagerato, non lo so, a voler interrompere la funzione. Ma chi se ne frega alla fine? È stata interpretata male da carabinieri male informati che hanno violato la legge. Quindi interrogazione parlamentare e ammirazione senza limite per Don Lino e per la sua resistenza a un potere pericoloso, a uno stato di polizia e a un abuso grave che egli e i suoi concittadini hanno patito. Incredibile, ragazzi, ancora costretto. No. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata. C'è un po' di rabbia, va, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Sì, io vedo molto negativo. Sembra normale, cazzo, che io entro al supermercato e mi mandano via perché non c'ho la mascherina. Queste teste di minchia. Queste teste di minchia. Non ho la mascherina e non posso fare la spesa. Ma che vadano a fanculo. Poi, quando esco, la mascherina non la prendo mai più. Se ne vado a fanculo. Una cazzo di guerra ci faccio adesso. La mascherina della minchia devo mettere. La spesa, uno che non ce ne ha mascherine, che cazzo deve fare? Deve morire di fame perché non può entrare al supermercato, perché c'è la normativa. Ma che vadano a fanculo. Posso dirti una cosa sulla mascherina che ha detto Conte, che mi sembra veramente una follia? Cioè, Conte al Senato che ha detto mascherine e distanze finché non c'è vaccino. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, una cosa totalmente folle. Cioè, ma che senso ha il vaccino? Primo, non si sa. No, allora, primo non si sa se ci sarà. Non si sa se ci sarà. Ma lascia perdere. No, non è si una sa. Giusta ma lascia perdere la giusta precauzione o no? Ha detto mascherine e distanze finché non c'è vaccino. Scusa, primo, non si sa se c'è il vaccino. Alcuni dicono che addirittura potrebbe anche non servire il vaccino, eccetera. Per cui di cosa parliamo? Cioè, di stare 18 mesi, un anno con le mascherine. Ma siete pazzi completi? Siete pazzi? Sì, bisogna stare attenti, ma un anno e più? Un anno e passa? Cosa c'entra? No, ma non c'entra niente. Poi un'altra cosa su questa applicazione, no? Su questa applicazione. Ma è utile che tutti sappiano che devono indossare la mascherina. Ma adesso, è una cosa che adesso, devono sapere sì, tutti. D'accordo. Anche in futuro dobbiamo cominciare a sapere magari crolla tutto. Magari cosa. Ha ragione Tarro e crolla tutto. Ma che crolla dici? Tutto. Ma che crolla dici? Tutto, adesso dice crolla ma sì, tutto. Ma sì, certo. Crolla tutto sicuro che no, crolla il virus. No, un'altra cosa su questa applicazione, questa famosa applicazione, no? Allora, o è obbligatoria oppure non serve un cazzo. Per cui sì, da una parte su questo potremmo discutere. No, da una parte Conte dice non è obbligatoria. Se non è obbligatoria non serve. No, una non è obbligatoria perché lo impone giustamente una normativa europea. Ma non mi interessa, tutte le cose. Dice, o è obbligatoria ma oppure non serve. Se non è obbligatoria, lo devono avere più del 60. Ma non, beh, non deve serve. Vedrai che sarà un interesse dei cittadini stessi quelli di scaricarsi l'app e di utilizzarla. Feltri scrive. Rivolto al sud. Feltri. Attenzione, manutengo. Questa sembra la radio di Libero, ti posso dire? Ma no, sembra che la radio di Libero. Ci sei tu. Sembra la radio non di Libero. Radio ma Feltri dice: Del Debbio ha detto, Mario Giordano ha dichiarato. Se è una cosa incredibile. Allora, attenzione, manutengo l'ingordia, non tirare troppo la corda, si rivolge al sud in generale, in particolare alla Campania, poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, peraltro meritata. Poi dice anche andate a morire ammazzati, così tanto per mamma mia, violenza. Sembra la Germania nei nostri dei confronti dell'Italia, è uguale. La Germania, alcuni rigoristi tedeschi, quando parlano dell'Italia, parlano esattamente nella misura in cui parla Feltri del sud. Vergognoso. Io ancora vergognoso. Non ho ricevuto nessuna rassicurazione sulla storia che abbiamo detto ieri. Oggi ne parlano tantissime persone di questa storia dei testicoli, se esiste, se si può annidare e rimanere nello sperma il coronavirus. Non ho ricevuto nessun tipo di rassicurazione. Tutte cose può essere, ma forse no. Ma nessun tipo secondario. Di rassicurazione. Ma che tema secondo? Un tema fondamentale. Tema fondamentale che avrà delle ripercussioni enormi se fosse vero. Pensa alla paura di una persona nel fare quello che sappiamo. Dai, su, cioè. proposito di sud e nord, senti quest'altro fenomeno, amico nostro, quello di Ischia, Gigi Lista, fontana da giustizia. L'unica cosa è chiudere la Lombardia, ma ti rendi conto? Voi avete fatto la metà dei morti dell'Italia in Lombardia e avete più della metà dei contagiati di tutta Italia in Lombardia. È colpa dei lombardi, è colpa della classe dirigente dei lombardi, è colpa di Fontana che dovrebbe essere arrestato insieme a tutta la sua classe dirigente, no, giustiziato, messo a un muro con il protone di esecuzione. Questo è normale secondo te, questo Gigi Lista? No, dai, mi raccomando, su, no, dai, in nessun modo, dai. Questa gente che andrebbe arrestata, nemica giurata del popolo, ma veramente stiamo facendo? Questi sarebbero gli editori seri. Vittorio Feltri ancora un pagliaccio che lo mettono a parlare in televisione, si fa una grappa, si ubriaca e parla. Ma di che stiamo, ma veramente stiamo facendo? Noi possiamo pensare a come riaprire, voi no, voi in questo momento vi dovete stare zitti. Zitti, silenzio, e dovete pagare. Io non capisco perché la magistratura non apre un'inchiesta. Siete tutti dalla stessa parte. Fosse accaduto a Napoli, fosse accaduto in Campania, ma veramente sono aperte adesso l'inchiesta. Ci avete fatto sbarcare i Marines, ma sono... sulle nostre coste. Ma sono le inchieste, ci sono, rincoglionito. Ci sono le inchieste, è pieno di inchieste della stessa magistratura di Milano, rincoglionito. It's a low kind of show, but the crowd needs... Ma in questo momento noi non possiamo, perché deve ripartire la vostra industria a morire. Avete capito? E questo è il punto. Araldi del potere, vergognatevi. Dovrebbero arrestarvi. Ma chi? Arrestare chi? Una retata di chi? Di tutti? Pazzesco. Una roba pazzesca, dai, su, è pazzesco. Però molto che... brutto quello che abbiamo sentito. Patrizia molto brutto da Milano. Quello che abbiamo sentito. Patrizia da Milano, vai. Ciao, Patrizia. Giuseppe, chi era quel cretino di prima? Amica mia. È gente che adesso sente un senso di rivincita, no? La rivincita, sì, certo, la vendetta, certo, la vendetta, certo, capito? La vendetta nei confronti del no. Stronzo. Si chiama Gigi Lista, signor sì. Gigi Lista, è uno brutto di Ischia. Dirla. Va bene, allora. Vabbè, comunque, chiamo perché sono assolutamente d'accordo con il barista che avete fatto sentire prima. Lo temevo. Cosa c'è da essere d'accordo? Quella era, non è d'accordo, non ha detto niente quello. È incazzata. La fai essere incazzata? La può essere incazzata, Patrizio, oppure non è consentito essere incazzata anche di fronte a te che bevi cocktail sulla terrazza e quella invece una barista che è in mezzo a una strada? È incredibile. Sei incredibile. Ascolta, una che è incazzata, una barista, mentre tu i cocktail te li bevi. Di merda. No, adesso calma, perché? Non capiscono un cazzo. Ecco, perché? Dimmi. Non capiscono un cazzo delle attività. Ma ci dobbiamo indebitare con le banche. Questo non va bene. Questo non va bene. Sappiamo che quando possiamo aprire, sì, oltre a lavorare con le restrizioni sanitarie, sarà molto complicato. Sarà molto la complicato. Gente non avrà nemmeno i soldi per andare nel ristorante. E forse non ci vorrà andare per motivi di sicurezza o nel appunto, bar, perché avrà paura, poi, avrà il terrore di andare nel bar. Certo, il terrore. E poi dovremo mettere i plexiglass tra no, un questo, tavolo amica, e l'altro. Questo uno si no, deve rifiutare. Questo uno questo si questo deve rifiutare credo. Fino alla fine. Si deve rifiutare ma fino alla fine. Il anche ristorante la... è un piacere sociale. Che ti devo dire? Giusto, che ti devo giusto, dire? Ecco, e allora questi governanti dovrebbero farci riaprire. No, vi dovrebbero farci indebitare. Bisogna intanto inventarsi delle altre in ma attesa che tutto torni normale. Inventarsi che vedo che molti ristoranti ma sono reinventati takeaway, ad esempio, cioè ma... ti portano a casa il cibo, vedo molti ristoranti che fanno. Ma cosa vuoi guadagnare con l'asporto? No, ma lo so, cosa certo, le pasticcerie diglielo, che ti Patrizia, consigliano diglielo, i croissant questo... a casa. Le... Non la conosce la vita. Con 50 per posti a sedere se ne posso far sedere 15 di persone è meglio che chiudi. Questo è un tema. È meglio che chiudi. Non hanno capito un cazzo questo. Quando dicono sì, beh sì, questo farai è meno, sicuramente farai un problema, meno coperti, che meno coperti, se faccio meno coperti chiudo no. Crepo. Uno appunto, deve essere indennizzato per quei coperti che non fa trovare fermi, un modo fermi per... tutti Enzo da Roma tu parli fermi. Sempre chiacchiere indennizzato come questo ma che Enzo cosa se provo a dire delle cose chiacchiere e allora urlate solo che ti devo dire incredibile tu cosa fai lisci il pelo alle persone che hanno rabbia no Enzo cioè, dimmi allora, avrete visto sicuramente le liste depositate dal MEF con i nuovi componenti dei consigli di amministrazione no no sì qualche cosa ma non ce ne frega un cazzo Enzo ecco, se scorrete un po' i parla nomi con Barisoni non ci rompe i coglioni vedete che sono sempre i soliti amici degli amici. Beh, il PD al governo, per forza, ecco, le nomine le fa il governo, ci sarà qualcuno vicino al PD, come succede in tutti, ecco, in tutte le cose normali. Che vuoi che ti dica? Appunto. Sono nomine del governo, quelli sono del governo, non è che ci sta mio nonno, ci sta il PD e 5 Stelle, saranno vicini a quelli, no? La spartizione, che spartizione? È un governo che sta in piedi soltanto per e va bene, ma speciale. Un governo legittimo, è normale che sia così, ma di che stiamo parlando? A me non me ne frega nulla di queste puttanate, ci sono cose di potere, ma cosa vuol dire? Non vengono nominate da quelli che stanno in carica in quel momento, fosse stata la Lega o fosse, avrebbero messo amici loro, stai sicuro? Come non sarebbe cambiato passato, nulla, certo, non c'è come dubbio. Come hanno sempre fatto, ma quello è normale che sia così. Fermi. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodall'italia.it. La Zanzara. Siamo sull'elicottero della Guardia di Finanza, che è proprio lì a fare cosa? A controllare. Ecco, Barbara. Allora, l'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando. Quindi ora lo stiamo inseguendo. Non so se si può vedere, i finanzieri hanno iniziato a correre perché lui si sta allontanando tra le case. Eccolo lì. Vedi, Barbara, sta... Lo sto vedendo. Andrea inquadra e giù ci sono altri poliziotti che stanno bloccando altre persone. Quanto mi ami, dillo tutto il mondo, tutta la vita. Una volta a Milano ci avevate solo la nebbia, adesso ci avete pure il Covid. Bella chicchi, state bene tutti belli chiusi, noi se ne andiamo al mare, voi respiratevi la merda. Ciao scemi, ciao Feltri, salutami Bergamo. Cruciani, è inutile che tenti di nascondere la realtà. Voi lombardi state pagando il vostro stile di vita dissoluto. Siete dei viziosi, dei culattoni e anche dei tossici. Al sud il virus non ha colpito perché abbiamo uno stile di vita sano. Cretino di poc'anzi. Barisoni gay. It's a Allora David, devi sapere che sia a Roma che a Milano, i due sindaci delle rispettive città si esaltano molto perché stanno progettando le piste ciclabili, una vita più rispettosa dell'ambiente, cioè ci hanno ridotto come Greta Thunberg, che peraltro fa l'elogio del questo nuovo progetto milanese, però. È una cosa non è male. Che mi fa orrore. Cioè, il fatto che la gente inizia ad utilizzare altri mezzi del trasporto pubblico, una consapevolezza nell'uso della città, questo mi pare volete ridurre un'idea diversa. Questa cosa qui vuol dire che ci è servita nella tragedia, cioè usiamo questa tragedia per modificare alcuni stili di vita. Se a Milano si userà di più la bicicletta o il mezzo pubblico, evviva, potremmo dire evviva. Ma di che parli? Ma come funziona l'economia dei trasporti? La fighetteria, roba da fighetteria. fighetteria parenziana, questa roba qua, da Terrazzino, da Terrazzino, cioè, Terrazzino, scusami, Terrazzo su Prati. Sì, lo so che non devo dire Terrazzino, sì, hai ragione, no, hai ragione. È anche come sì, dire, offensivo, è offensivo, voglio dire, è Terrazzino. Sì. Quello, è come dire quello là. Quello là, no, un terrazzo con delle piante, con sei guarda, tavolo, incredibile. Un tavolo dove gli imprenditori, piccoli imprenditori di questo paese dovrebbero venire a prenderti a Prati, dovrebbero venire adesso? A prenderti ma a Prati. Ma perché adesso devi sempre esagerare? Allora, stavamo parlando di un'altra cosa. Cioè, stavamo parlando del fatto che se si incentiva l'uso del mezzo pubblico quando sarà finito tutto questo e si potenzierà, ma la gente dovremmo non dire è che va viva. A lavorare con la biciclettina. Io a Roma magari potessi utilizzare il mezzo pubblico per andare a lavorare, lo farei molto pubblico? Volentieri se cose. Sapessi la bicicletta, la bicicletta elettrica, bicicletta? Io la uso la bicicletta elettrica per andare alla Radio 24, è che devo salire e scendere perché come sai Roma c'ha i colli, Valerio i sette colli di Roma, famosi Valerio sette colli romani, vabbè, no? Valerio dai, da Roma, su. Dai. Pronto? Quali sono i colli di Roma, peraltro? Li conosci, te li ricordi? Sì. Sì, pronto. Dimmi Valerio, dimmi, senti Valerio. Sì, niente, volevo solo dire niente, che mi stupisce sempre di più l'Italia del paradosso, no? Che i carabinieri vanno a interrompere una messa per dire, al di là che interessi o meno la messa, ma non si può fare. Però scortano i funerali del sindaco di Saviano, è divertente, no? Perfino divertente. Questo è vero Valerio, non hai tutti i torti su questo perché in alcune realtà si consentono delle cose, però è intervenuto subito il governatore bloccando tutto. Isolando il comune, Luca, eccetera. De Luca che pontifica, ho capito, De Luca che poi dove fa, non è che può governatore. Ma va, io non credo che, cioè, qua siamo nel ridicolo, lo capite che siamo nel ridicolo. È ora di finirla, solo con che cosa? È ora di finirla. È ora di finirla. È la frase più detta, è ora di finirla. Con che cosa? Scusa. Cosa, ragazzi, oggi la gente sta veramente sbroccando, sta perdendo la testa. Oggi uno si è suicidato, non so dove, magari ha anche avuto altri problemi, ma chissà perché si è dato una pistolettata o non so dove, si è buttato da una finestra dopo 40 giorni di isolamento. Ma pronto che, Valerio? Pronto ma sei qui cosa? Sei qui cosa? Cosa sei ma qui? Ma che cosa vuoi? Ma che cazzo c'hai? Cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa vuoi ancora? Niente, non voglio niente, ciao. Ma fermo là, fermo, dove vai? Perché hai fatto arrabbiare? Ma non capisci, viviamo una provocazione continua. Ma di che cosa parli? Ma di chi? Cosa? Si capisce, no, la conversazione? È evidente, no? Ma provocazione di chi? Cosa è evidente? Io non capisco niente di quello che dite. Ma la provocazione di chi è, Valerio? Non ho ma chi è che dice pronto? Ognuno fa quello che vuole e si punisce sempre quelli che hanno meno colpa. Ma dai, su. Ma dai, su che? Ma scusi, per chi vota lei però? Per questa chiarezza ma no, di non che importa, ha. Non importa per chi voto. No, importa, importa invece. Non ha nessuna importanza. Sì, voto, no, invece importa perché lei ha una lucidità rara. Voglio sapere per chi vota. Ma che te ne frega perché te, una per lucidità chi rara. Fermi tutti. Metti in diretta la 7, c'è cioè Meloni in diretta dalla Camera dei Deputati, dei Fratelli d'Italia. Allora, eccola qua, eccola qua. Sì, signori pronto. Del governo, eccola qua. Valerio. La fase 2, la fase 3, abbiamo fatto la fase 2, avete fatto la fase 3, avete fatto la fase 2, avete fatto la fase 3, avete fatto un cazzo. Io ve lo devo dire, io sono leader dei Fratelli d'Italia e ve lo devo dire, avete fatto un cazzo. Avete fatto la fase 2, avete fatto la fase 3, eccola. Valerio, allora chi è? Che sta succedendo? È Meloni. Chi la guarda da casa? Ma noi siamo il Parlamento, da casa. Noi siamo le Parlamento. Opposizioni e quindi siamo consapevoli del fatto che quello del che lei dichiara che non corrisponde ai suoi atti, Presidente Conte, altrimenti lei dovrebbe Valerio, per chi è votato? Chiedeva Parenzo. Eccola. Per chi hai votato, Valerio? Non lo dico perché tanto non è importante. Non lo dico. No, guardi dico che è importante. Il mio rammarico nel vedere le cose, i paradossi che ci sono in Italia, basta, tutto qua. Se è chiaro, bene, se no è lo stesso, capite? Che cosa è chiaro? Cosa basta, tutto qua. Cosa è chiaro? Cosa è chiaro? Pronto? Pronto? Cosa è chiaro? Ma pronto cosa? Ma pronto cosa? Pronto che? Non ho capito perché dici pronto ogni volta. Sì, pronto. Ma pronto cosa? La Meloni, stiamo la Meloni. Ma tu dici pronto? Lei! Sì, pronto. Surati le orecchie, su, bravo, ciao. Sì, pronto. Al Alberto da Milano, vai Alberto. Vai Alberto. C'è la Meloni, c'è la Meloni. Ma su... non me ne frega un cazzo della Meloni, ti interessa solo a te, Alberto, dimmi. Speciale Alberto. Di Gila 7. Buonasera. Sì, dimmi Alberto, dimmi. Volevo intervenire per quanto riguarda le affermazioni di Sgarbi. Ormai non se lo fila più nessuno. Ma non puoi dire così. Non puoi dire così. Ma non se lo fila nessuno. Non è vero, adesso te lo chiamo. Mi hai fatto incazzare stasera. Perché devi dire che non se lo fila più nessuno? Il maestro è il maestro. Sgarbi è un maestro. E tu sei un coglione. Maestro di che cosa? È una seconda considerazione. Quel signore che parla di bar, che parla di riapertura, che non si interessa della salute pubblica, non gliene frega niente, vuole aprire, vuole solo riaprire, si lamentano dei 600 euro che il governo... Premesso che io sono un libero professionista. E allora? Che uno non si può lamentare? Ecco, non è libero. Mi piacerebbe vedere il modello unico di queste persone che si lamentano. Ma vergognati! Ma ti devi... quando devono prendere? Ma ti devi vergognare? Quando devono dare, lo Stato non esiste. Ma ti devi vergognare di quello che dici? Hai detto... Non mi vergogno di niente, vergognati tu! Perché 10 minuti fa avete detto che è giusto che i manager vengano nominati dal signore al comando. Per forza quello, è così. Che cos'è? Cos'è sto? È così. No, è giusto che nomino gente che fate, non erano amici tipo Colicchio al pubblico. Ma chi se ne frega, Alberto? Alberto, io non ho capito perché attacchi Sgarbi. Non ho capito. Qual è il problema che hai con Sgarbi? Ma come si fa a difendere un prete che porta della gente in chiesa, cioè che li mette a rischio, mette a rischio la vita di questa gente, e tu difendi un personaggio del genere? Io non sono cattolico, ognuno faccia quello che ne fa. Tu di fronte, di fronte a Sgarbi ti devi mettere in ginocchio, Evasore fiscale. Un assenteista continuo. Ma cosa mi racconti? Ti devi ginocchiare. Di fronte a Sgarbi, a parte che ti assumi la responsabilità di quello che dici, ti devi inginocchiare di fronte al professore. Ti devi inginocchiare. Chiuso sto coglione. Richiama sto coglione. Via. Richiama. Guarda, è incredibile, siete incredibili. Tu e Alberto da Milano. Augusto da Bergamo, dai Augusto, dimmi. Augusto. Siamo pronti? Sì, Augusto, dimmi che amico. Qual è la novità? Non lo so qual è la novità, dimmi. Tu sei l'urologo, sì, l'urologo, grande urologo. Ma guarda, abbiamo sentito questa notizia che arriva da alcuni ricercatori americani. Quella del testicolo e dello sperma, sarebbe una cosa gravissima, sì, amico mio. Esatto. No, io ho naturalmente in questi due giorni ho cercato di approfondire il discorso. Si tratta... Cioè, ma tu ci credi davvero che possa essere, che possa permanere nello sperma? Qui è una tragedia. Cioè, le donne, se sanno questa cosa degli uomini, se fosse vera questa cosa, addio Pompini. Cioè, sarebbe una tragedia. Dunque, assoluta, sì, amico mio. Tu che sei un tecnico, caro urologo Augusto. Sì, Cruciani, dobbiamo premettere questo. Che hanno scoperto che i recettori che si combinano al coronavirus in diversi organi del corpo sono in prima linea il polmone, il cuore, i reni, l'intestino e i testicoli. Questo è sicuro, dunque? È sicuro questo? È sicuro, perché c'è una cioè noi moriamo di più, i maschi muoiono di più perché hanno i testicoli, questo me lo puoi confermare tu? Okay. Sì, non solo per questo. Dai, ma anche certo. Però seconda cosa, Augusto, sì. Allora, a parte la tua tecnica di ventilazione del pisello, sì, che mi sembra, sì, non so, sì, quanto, sì, possa portare, però comunque, la tua vecchia tecnica. Però questo, lo sperma, dentro lo sperma può rimanere qualche cosa, cioè può restare, può annidarsi qualche... Questo nessuno lo può sapere se non facciamo un esame culturale dello sperma e culturale delle secrezioni vaginali. Pure. Esatto, perché il testicolo non produce soltanto lo sperma. Il testicolo produce il testosterone ed è stato appurato. Cioè, secondo te bisogna fare, allora a questo punto bisogna fare un'analisi dello sperma. Esatto, però non lo sappiamo se il coronavirus arriva nello sperma, sappiamo che nel testicolo alberga. Alcuni dicono alberga. Anche nello sperma, alcuni dicono possa alberga. Rimanere dentro lo sperma, capito qual è l'enorme tragedia, la portata di questa cosa è enorme. Io non sono un laboratorista, non posso affermare. Sei un urologo. Sì, però non faccio lo spermiogramma, non faccio la spermiocultura. Allora, il problema è questo, che il testosterone che è prodotto insieme allo sperma nel testicolo allora? È un immunodepressivo. Ecco perché l'uomo è più colpito, perché oltre a delgare il coronavirus nei recettori del testicolo, il testosterone che è prodotto nell'uomo anche fino ai 90 anni, anche fino agli 85 anni, ecco perché colpisce anche gli anziani. Il testosterone è immunodepressivo, quindi abbiamo minori difese rispetto ai bambini. Ma che brutta notizia che mi stai dando, amico mio. Mi stai dando delle notizie terribili, mi stai dando delle notizie veramente che già sono depresso. In più tu mi aggiungi queste cose e mi deprimi ancora di più. Qual è l'altro problema? Aspetta, fermo un attimo che dopo torno con te, fermo là. La Zanzara. Ora s'appiccia un cannone e Zanzara tutto fo. A belli. E mi faccio i canne, sì. Fate la propaganda della droga. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Io non voglio che ti fumi l'erba. Voi propagandate la droga. Perché Zanzara e canna, sto a posto, raga. Sto proprio a posto. A pizza! E mi faccio una prugnetta, mi faccio bruciare. Se confermano sta cosa del coronavirus nel liquido seminale, io mi suicido. Tra l'altro oggi le voci si fanno sempre più insistenti, anche in farmacia alcuni clienti me lo hanno chiesto preoccupatissimi, è una cosa molto grave questa del liquido seminale in cui sarebbe contenuto il virus, ripeto, confermo la mia volontà di suicidarmi. Allora, non ci può dare risposte definitive, purtroppo ce ne dà di negative su questa storia dei testicoli, su questa cosa dello sperma. Ho consultato anche vari professori ieri, preoccupato da questa vicenda, perché capisci, Davide? Ma certo, sono preoccupatissimo. Lui consulta professore. Lui certo, consulta professore, andrologi. Io lo trovo incredibile. Ma c'è. Perché l'unico problema è quello lì. Sta crollando il mondo. Stiamo cercando di capire cosa accadrà giovedì nel Consiglio europeo, quando i capi di Stato e di Governo prenderanno decisioni. Si sta parlando del MES, la BEI, eccetera, e lui pensa ai testicoli. Ma scusa, sarà più importante un pompino del MES? Nella radio della Confindustria. No, ma scusami Davide, però adesso oggettivamente c'è qualcuno che mi può contraddire su questa roba qua? C'è qualcuno che mi può contraddire? Sarà più importante l'idea che uno potrà essere libero fra qualche tempo di farsi fare un pompino piuttosto del MES? Piuttosto del MES? Sentirato mica Giorgia, come va l'attacco? Non tassati, non tassabili, ovviamente circolabili, e che dovrebbe pretendere dalla Banca Centrale Europea che tutti i titoli di Stato, tutti i bond... All'attacco, va, perché come dici tu, sempre all'attacco. Certo, ma quale sempre attacco, all'attacco, ragazzi? Allora, Augusto allora dimmi qualcosa in più su questa storia dello sperma. Prima che il collega farmacista si suicidi, dobbiamo specificare bene, per chi non conosce la materia, che il testicolo ha due linee produttive: una linea è quella del testosterone, una linea è quella due dello sperma. Ma cos'è, una fabbrica? Poi, due linee produttive. Aspetta, due linee produttive, il testicolo, è chiaro, poi. Ecco, allora, se il virus si coniuga nella linea produttiva del testosterone con la linea produttiva dello sperma, è chiaro che se non facciamo i tamponi o le spermioculture, non possiamo sapere se si annida lì il virus. Esatto. Però scusi, Augusto, per te è la contaminazione. Perché si contamina? In che senso? Cioè, come arriva? Arriva per via sanguigna al testicolo? Arriva per via linfatica al testicolo? Quello. Arriva per il rapporto sessuale? Questo è il problema del foro. No, adesso pure sta roba qua mi devi dire che arriva per via sessuale, ma non è possibile, dai. Ma scusa, l'AIDS come fa ad arrivare? Se hanno detto, il Montpellier, che è uno scienziato che ha preso il premio Nobel della medicina, ha detto che il coronavirus è una variante in fabbrica molecolare, biologia molecolare. Scusami, allora Augusto, voglio sapere da te una certezza assoluta, che è questa. Tu vabbè, tu sei sposato, hai tutta una tua cosa. Tu, potremo, anche se sei un po' libertino, potremo avere la certezza nel futuro prossimo, non dico adesso, nel futuro prossimo, di farci fare un sacrosanto sempiterno e sempre ben accetto, che lo abbia in gloria. Pompino, con direi, tranquillità direi o assolutamente, no? Assolutamente no. No, io ti dico, in provincia di Bergamo, i nostri dipendenti ospedalieri fanno il tampone faringeo perché non hanno reagenti. Vabbè, d'accordo, ma che c'è? Ma questo d'accordo. I dipendenti dell'ospedale a contatto con... ti ho chiesto un'altra cosa importante, lo so. Mi che arriva a casa la coniuge che arriva dall'ospedale, come fa a farmi un pompino? Scusa, questo. Io che me lo faccio fare io. Ah, come tu in questo momento non ti fai fare pompini a casa? No. Perché per paura di attaccare qualcosa alla moglie? No, per paura che lei me lo porti in casa. Attraverso la sua gola. Ma no, non è possibile, dai. Davide, io spero che tu stia sentendo bene questo signore qua. Sto sentendo tutto, ma cosa devo fare? Spompinare dalla moglie, dalla consorte, per paura di prendersi il coronavirus. Mi sembra abbastanza. Il quadro è chiaro, Augusto, no? Posso dirvi che qualora domani non trovassi questa notizia sui più importanti quotidiani, ma chi se ne frega, non mi stupirei. Vi ho detto solo questo: qualora domani non trovassi questa notizia sui più importanti quotidiani italiani. Io sono un personaggio. Sei un personaggio incredibile. Io sono un personaggio. No, io voglio fare il quadro della situazione. Augusto, che è un urologo anche importante della zona di Bergamo e dintorni, non specifichiamo neppure, ma lui non ha problemi a dirlo. E sostiene che in questo periodo drammatico, terribile della nostra esistenza, della nostra vita, eccetera, eccetera, a casa rifiuta, non so quale sia la pratica e la consuetudine nella sua magione, rifiuta di farsi fare un pompino dalla moglie per paura che la moglie attacchi il coronavirus. Ragazzi, siamo arrivati a questo. Perché la mia signora lavora in ospedale, in un ospedale che... E dunque tu dici potrebbe avere il Covid e attraverso il pompino attaccartelo. Allora, scusa, non parliamo di bruscolotti, qui la situazione è questa. Il contagio, lo sappiamo da sempre, a livello urologico, andrologico, può essere per via linfatica, ematica o per via canalicolare. Sì, ma questo l'abbiamo capito. Cioè, secondo... Ho capito, amico mio, però mi sembra un po' difficile... Sì, come la cappella? La cappella. Tu dici, attraverso la cappella può passare il virus, secondo te? Adesso il meato guttale esterno che sta alla punta della cappella, quello dove esce la pipì. Ho capito, però io vi chiedo scusa, non mi pare, come dire, un elemento ma è fondamentale sul quale focalizzare. Ma stai scherzando? Io 15 minuti sì, di approfondimento 20-30 bisognerebbe questa, fare, cioè, no, qui, 30. Mi sembra, fermi tutti, c'è la Boschi, parla la Boschi, parla la Boschi, Italia Viva. Italia Viva ora. La cosa che mi meraviglia è che non si dice nulla nei telegiornali e ai giornali di questo. Quello cose. Hai ragione, Augusto. No, ma scusa, ha ragione Augusto. Ci sono dei problemi, c'è la gente che non riceve i soldi, i 600, e questo vuole parlare di come il sesso, che cosa non ha meno importanza secondo te? Si meraviglia di che cosa? Che sui giornali non parlano di queste schifezze, ma che discorso è? Di cosa vive questo Parenzo? Ma cosa vuol dire? Di cocktail sul terrazzo, di cocktail sul terrazzo. È una parte fondamentale dell'unione. Ma siamo d'accordo, ma se mi permetterà, viva Dio, adesso ci sono dei grandi intramenia e fuorimenia. Scusami Augusto, io voglio anche concludere questa augusta conversazione, anche se starei con te per ore, semplicemente chiedendoti questa cosa: se tu con tua moglie, non so da quanti anni stai con tua moglie, non pratichi in questo momento attività sessuale orale, hai paura a praticare pure attività sessuale con penetrazione? Lo confermo. Ok, confermi, cioè non pratichi nemmeno quella? No, non pratico la penetrazione, ma manco mi faccio fare un pompino o l'inverso, un cunilingus. Niente, ma non può parlare con sua moglie, può risolvere nel privato della sua maledetta casa questa questione, anziché farlo diventare un caso nazionale. Gli scienziati che vanno da Vespa, che vanno a tutte le trasmissioni, mi chiedere, ma voi cosa ne dite? Ma non fanno neanche l'esame della faringe. Vuoi che facciano l'esame dello sperma? Ma scusami Augusto, di fare naturalmente l'esame dello sperma, naturalmente in diretta. Naturalmente. Naturalmente sul servizio pubblico, utilissimo. Scusi, come se l'immagina? Naturalmente la mia creatività in questo momento si è riaccesa, naturalmente. E quindi domani mi recherò a Viale Mazzini della Rai a proporre immediatamente a Rai 1 questo nuovo format. Il grosso vantaggio che è il circoncino, per cui il coronavirus sicuramente ha meno possibilità di attaccare. Ah sì, poi io lo dico, adesso c'è Francesco. Naturalmente è un format molto simpatico, è un format molto veloce, naturalmente si chiama Viva lo Sperma, come Viva l'Italia, grande programma. Naturalmente le persone arrivano in diretta, questi maschi, in diretta televisiva, dovranno naturalmente masturbarsi davanti al grande pubblico, verrà naturalmente in diretta raccolto lo sperma e immediatamente verrà fatto un test. Questo è il servizio pubblico, naturalmente, perché così c'è un doppio servizio. Scusi, l'uccello si vede in diretta. Certo, ma quello Rai 1 ancora in mano ai preti, non è possibile, è la vita naturalmente, è la realtà. Tutti ce l'hanno, lo conoscete naturalmente. Dov'è lo scandalo? Uno dice: hai fatto vedere un pisello in televisione, perché tu non ce l'hai? Dai che ce l'hai naturalmente. Io sono pronto a sfidare il consiglio d'amministrazione della Rai quando mi dicono: tu Freccero hai fatto vedere un pisello in televisione. Io gli dico: scusami, e tu non ce l'hai forse? Dai su che ce l'hanno tutti, dov'è lo scandalo? Dai, è Freccero che vuole fare un programma per prendere in diretta live, per prendere lo sperma dalle persone per fare queste valutazioni di cui stiamo parlando. Sentite, istituiamo un festival del sesso virtuale in Skype. Ma che vuol dire, professore? Maestro, cosa vuol dire? Scusa, no, un'ultima cosa, scusi maestro, quella cosa lì del frenulo mi interessava, cioè dei circoncisi. Cioè i circoncisi hanno meno possibilità di prendersi il coronavirus o di più? Non ho capito. Certo. Allora, dal punto di vista possibilità, chi non è circonciso ha meno possibilità di attecchimento attraverso la saliva della partner di qualsiasi batterio. Chiaramente, se la partner, no? Ha un rapporto orale con il maschio che ha un prepuzio e ha un frenulo e quindi ha dei recessi, diciamo, tra il glande e il prepuzio maggiori che non quello che è scappellato, è chiaro che l'attecchimento di batteri come la sifilide, come la l'AIDS, come il coronavirus hanno maggiori possibilità di attecchimento. Ho capito il ragionamento, Dunque Parenzo da un certo punto di vista è favorito, ma pure questo culo. È a Roma, è circonciso, dove non c'è, è circonciso. È l'ultima cosa alla quale ho pensato, francamente. Comunque, no, professore, urologo ti ha detto questo, ti ha dato una lezione. Non apro la discussione sui circoncisi, perché già ho il collega che fa la toilette delle grandi e piccole labbra e mi fa concorrenza, no? Ma anche la circoncisione va fatta in diversi step e in diversi... Ma amico, io non la voglio fare la circoncisione, scusa, sto bene così, non voglio fare... Potrebbe essere l'argomento di un'altra puntata. Assolutamente, ti ringrazio, ciao Augusto. Ma per carità, ciao, avanti tutto. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Una roba, guarda, pazzesca. Sei incredibile, tutta colpa tua. Questa gente la chiami tu. Questo non passerà. Forse per me, io chiamerei soltanto Alberto Quadrio Curzio, ad esempio. Dipendesse da me, io, guarda. Questa è gente che attiri te per una questione molto semplice, questa gente qua, appunto per questa cosa della circoncisione. L'hai attirato te questo qua. Ma io non ho mai voluto parlare di questa cosa, che sei tu che sei fissato con questo argomento. Allora è con noi Vittorio Feltri, buonasera maestro. Buonasera a tutti voi. Ma guarda, quando ti sento in questi giorni sono una persona felice, perché innanzitutto so che stai bene. Toccati coglioni a pelle, ma so che stai bene, certo. E tu sai che io sto bene perché ci messaggiamo, certo. E dunque a vicenda toccandoci come due fidanzati. Possiamo essere contenti di essere Vittorio, come stai? Possiamo essere contenti di essere vivi, oppure dobbiamo chiedere permesso a te Vittorio, di essere vivi. Come stai? Beh, sto bene, sì, ho andato a fare alcuni comunisti, sto benissimo. Scusami Vittorio, c'è un po' di maretta. Stai a casa Vittorio, per piacere, non andare in ufficio, è pericoloso. Stai a casa. Ma figurati. Allora, scusami Vittorio, c'è un po' di maretta, vedo, del sud nei tuoi confronti e viceversa. Ah, sì, certo. Sono incazzati come iene. Come iene. Chiede la scusa e si metterà, cioè, tutto dicono a posto. Che tu hai scritto un articolo in cui hai concluso questo papiello con scritto: andate a morire ammazzati. Mamma mia. E hai scritto anche che sono un gruppo di manigoldi che succhiano denaro al nord e poi adesso si pavoneggiano della loro immunità, chiamiamola così. Sì, sì. Del no, fatto. Ma no, non ho usato quel termine che hai usato tu, ho detto semplicemente che c'è un livore nei confronti della Lombardia che si spiega solo in un modo, cioè con una sorta di rivalsa nei confronti del nord, che è più ricco, che versa soldi a Roma tutto spiano, e oltretutto è abbastanza chiaro che spesso nel meridione si soffre di un complesso di inferiorità. Io invece non penso che soffrano di un complesso di inferiorità, penso che siano inferiori. Addirittura, cioè tu pensi in che sei, aspetta, come i tedeschi parlano dell'Italia. Aspetta, lui usa gli stessi stereotipi. Stai zitto un attimo, voglio che spieghi questa cosa, in che senso che sono inferiori? Beh, nel senso che tutta la loro economia è un disastro, da decenni, direi da un secolo, tentano disperatamente di risollevarsi e non ci riescono, quindi evidentemente c'è un gap che non riescono a colmare, ma non mi sembra una cosa così... Sì, così strana, diciamo, così nuova, diciamo. Cioè, è la fotografia della realtà. Della realtà. E tu dici, questo De Luca qua, che pure è apprezzabile sotto diversi aspetti, perché ha questo atteggiamento... appunto, perché ha questo atteggiamento, diciamo così, nei confronti del nord? Nei confronti del nord? Ma blocco tutto, chiudo tutto. Ma no, ma lui lo fa giustamente, dal suo punto di vista non potrebbe fare diversamente, cioè... cerca di tenere alto l'orgoglio partenopeo, campano, e quindi fa la sua parte in modo... Ma se a Napoli c'è un'eccellenza sanitaria assoluta che si chiama il Cotugno, è un grande ospedale, ma cosa dici? Ma cosa dici? Stereotipi e luoghi comuni sul sud ancora? Io pensavo che chiedessi scusa, dicessi guarda, sono purtroppo, va così sto giornale, chiedo scusa per quello che ho scritto, questo sarebbe stato... Ma devi cosa parlare ha scritto? Delle... Io ma cosa scrive? Cose vergognose, insultanti. Tu dovresti chiedere scusa che spari una serie di cazzate senza neanche sapere quello che dici. Io ho semplicemente detto che il Sud soffre di un complesso di inferiorità, anzi è inferiore, perché sono inferiori i dati, tant'è vero che il 25% del PIL, tanto è vero, vabbè, se mi fai parlare... Fallo parlare, su, dai. Il 25% del PIL viene prodotto in Lombardia, non mi sembra che altrettanto si possa dire della campagna. Ma scusa, secondo te c'è anche, voglio dire, il virus ha colpito più al nord perché è più attivo rispetto, diciamo, al sud? Che... No, perché ha colpito al nord perché lì c'è stato il focolaio iniziale e quindi si è... E l'hanno gestito male. Molto, si è e l'hanno gestito ad minchiam al nord, altro che... Allora, invece al sud... Ma perché mi chiamate? Sì, scusami. Perché ma mi non lo so, perché... Per ma no, ti sto interloquendo, sto interloquendo. C'è questo paperino che mi rompe i coglioni ogni volta, dai. Una serie di cazzate infinite. Senti, adesso faccio un'operazione, Vittorio, sai che faccio? Faccio un'operazione, chiamo al volo un signore che oggi ti ha insultato, tu stai zitto, faccio tutto io, lo attacco in maniera furibonda, un tale che si chiama Gigilista, un tizio che lavora ad Ischia, è di Ischia, uno di questi qua che stanno sull'internet, tu manco lo conosci. No, perché... un amato sconosciuto. Sì, un amato sconosciuto. Faccio io. Ragazzi, mi fate il numero di telefono? Perché oggi sono veramente molto incazzati al sud nei tuoi confronti, sì, per quello che... Ma ti credo. Che chieda scusa, ha usato parole insultanti. Ma chiedi scusa tu che sei un papelino rompicazzo e basta. Ma perché dovrebbe chiedere scusa per una cosa che ha scritto? Spiegami. Non è un editoriale quella, è un'invettiva, è una roba, non c'è. Sono insulti e stereotipi. Ma tu vorresti la separazione, Vittorio? Vorresti la separazione proprio del nord-sud, cioè proprio due Italie separate? No, non rientra nei miei programmi personali, neanche così a livello di sogno. Io credo che il sud abbia tutte le possibilità per risollevarsi. Bisognerebbe che si mettessero in testa di copiare il nord, cioè di lavorare un po' di più. Beh, innanzitutto il sud sull'emergenza sanitaria ha da insegnare al nord, intanto. Questo sarebbe opportuno, lavorare un po' di più, dici, sì, no? Intanto è vero che 14.000 campani all'anno vengono a farsi curare a Milano, vedi quante stupidaggini, pure patologie. Ma questo sul sud sono riusciti, al sud sono riusciti a contenere l'epidemia, e ci sono delle grandi eccellenze. Ma perché tra non l'altro è esplosa l'epidemia, ma non dice meno male, allora, certo. A New York sono morte 40.000 persone, quello sono tutti coglioni, dai, su di New York. È esplosa al nord, è chiaro che ci sono più morti, è esplosa lì, continuate così, sentire questo deficiente ballare mi vengono i nervi, guarda. Come, sì, ma fa così, fa venire i nervi a molte persone, caro Vittorio. Che devi fare? Cioè, i nervi a molte persone. Io voglio capire da te una cosa: si è diffusa la notizia in questi giorni che questo cazzo di coronavirus prende anche i testicoli, addirittura può essere presente dentro lo sperma. Ti giuro, è una notizia. L'hai sentita? Ma, ed è per questo che gli uomini muoiono di più. Non ti sembra terribile una cosa? È un virus che prende i coglioni. Esatto, questo, infatti, ho capito, virus che prende i coglioni, porca puttana, ma ti pare normale una cosa del genere? Quindi secondo me Parenzo è candidato, dici. Stavo per dire, per fortuna il direttore si è salvato. Stavo per dire, infatti, per fortuna il direttore si è salvato. Dicono, scusa, Vittorio, dicono anche che l'alcol fa bene. Sai, alcuni mi dicono che l'alcol fa benissimo contro il virus. Ecco, questo è anche domani pubblichiamo un articolo dicendo che l'amarone e il Rampolicella ripasso è particolarmente indicato per contrastare il virus, no? Per combattere. Ecco, beviamoci su un articolo scientifico, proprio un articolo scientifico. Ma guarda che è vero. Una grande inchiesta di Libero. Ma perché? Mamma mia, livelli altissimi. Ma Marone... questa qui è una notizia che gira su tutti. Ma gira dove? Dove sui siti gira? Avete fatto un'inchiesta enorme, avete fatto per dire che bere funziona. Sì, perché mi piace bere lì a Libero. Infatti si vede che tu sei ubriaco anche quando sei sobrio. No, mi sembra evidente che fate le inchieste perché mi piace. Porca miseria, ragazzi. Articola tutta pagina. Bevete che così bevi che ti passa. Incredibile. Ma guarda che in Bielorussia, vero che non è un modello il Bielorussia, però c'era il dittatore della Bielorussia, Lukashenko, caro Vittorio, che qualche giorno fa ha detto da noi non ce ne frega un cazzo del coronavirus. Lukashenko, appunto. Hai Andiamo la vodka. Cioè, andiamo Lukashenko, avanti. Il nuovo idolo di Libero, perfetto, Lukashenko, evviva, bevete, avanti. E il fumo, che invece, cazzo, guarda, lo sai, ragazzi, che qualcuno dice che anche il fumo in realtà non fa così? Guarda, il fumo è un toccasana. Ma addirittura. Certo. Ecco un altro, ministro della salute Vittorio Feltri, bevete e fumate. Beh, guarda. Certo, bevete, fumate e non rompete i coglioni. Però scusa, Vittorio, se tu pensi di fare meglio, avresti fatto meglio di Speranza al ministero della salute in questa occasione? In questa, diciamo, ma io non avrei fatto meglio di nessuno tranne che di Speranza. Vabbè, incredibile, ragazzi. Incredibile. Ciao Vittorio, incredibile. Un abbraccio. Avanti tutta. Saluti. Ciao. Miei, stasera ci aspettano ancora grandissime sorprese, caro Davide. Non è finita qui, non è finita. So che tu, senti, Giuseppe da Cagliari, vai. Giuseppe, pronto? Eccoci qua, dai, vai. Sono, sì, grazie. Ciao, dimmi. Scusa, siccome ho sentito la discussione che si faceva prima di Sgarbi e poi di quel signore che era contrario per quello che fa la Chiesa, ascolta. Io vedo che le altre comunità cristiane non cattoliche hanno una certa discrezione che invece non ha la Chiesa cattolica. Mm. Tutti i costi la Chiesa cattolica vuol far entrare i suoi fedeli nelle chiese. C'è da dire una cosa, che mentre le altre comunità cristiane, valdesi, luterane, vabbè, amico, sono quattro gatti, dai, ma sono quattro gatti tutti... gli altri, ma dai, su, sì, ma ascolta, però gli altri lavorano, i ministri degli altre chiese lavorano, ma quali ministri? Chiesa, i ministri, non... ma che i ministri, ma che stanno entrando meno soldi, ma non è che lo fanno per i soldi, dai, c'è gente convinta, no, che vuole fare la messa lo stesso, vuole fare la messa lo stesso, che la Chiesa cattolica dal 380 Andrea provincia di Milano, mi hai rotto i coglioni, Andrea, erosi l'editto di sta minchia, Andrea provincia di Milano, vai Andrea, dimmi. Ciao, volevo innanzitutto dire che vorrei essere Parenzo, ha tutte le fortune lui, cioè la terrazza con chi gli porta i cocktail. Ma non è vero, non c'è nessun, ma non c'è nessun cocktail circonciso, si può circoncidere giusto, anche lei, guardi, su molte, guardi, in terrazza non ho nessuno che mi porta niente, se lei vuole si può circoncidere. Ma adesso questo mi faccio le corna, perché non lo so. Lo farei anch'io fossi lei. Poi però appunto vorrei tornare sull'argomento, quello che diceva. Comunque, stasera abbiamo scoperto una cosa. Stasera abbiamo scoperto una cosa: che Parenzo ha tutto, diciamo, tutto dalla sua parte. È a Roma dove i contagi praticamente non esistono. Diciamo la verità: non esistono. Beh, non esistono contagi. No, esistono, esistono. Ma sì, esistono. Ma insomma, Robetta ormai si è quasi finita. La situazione nel Lazio è quasi finita. In più, è circonciso. E da quello che dice l'urologo, da quello che dice l'urologo, nell'atto sessuale hai anche meno possibilità di farti invadere dal coronavirus. E sei a cavallo, Andrea. Che vuoi? Ho capito. No, volevo poi ritornare su quello che diceva Sgarbi. Secondo me è importante, perché adesso non se ne può più onestamente di continuare a stare in casa senza neanche poter uscire. Non si sta più ragionando minimamente su quello che c'è da fare, si stanno facendo cose così a caso. Non è possibile che le persone debbano restare chiuse in casa. Non puoi uscire a fare una passeggiata, stanno a 10 metri con la mascherina di distanza uno dall'altro. Ma quello mi pare abbastanza chiaro, ma ormai si andrà verso questa situazione qua. Spero che si andrà verso questa situazione qua. Ragazzi, fermo. La Zanzara. Buongiorno a tutti, scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Un attimo, abbiamo problemi tecnici. Giuseppe Conte. Buongiorno a tutti, scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Vai in giro a fare il galletto su tutte le televisioni, il fazzolettino, il naso aquilino. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Più veloci domani. Più veloci domani. Il galletto. Più veloci domani. Più veloci domani. Il galletto. Tutti insieme ce la faremo. No, è possibilissimo. Parenzo, sei vergognoso, e te lo dico da parenziano, perché se io a 71 anni riuscissi ancora a scopare, altro che giù la Claire. Ma per fortuna io vivo a 25 anni con il terrore che prima o poi non scoperò più. E sarà e con il terrore che sia presto quel giorno. Bernat a 71 anni scopa ancora, ma magari, avercene. Comunque, stavo ascoltando il podcast e sentir Parenzo che dice che tutti abbiamo trovato delle cose nuove. Dopo 3 anni e mezzo di ingegneria mi sono laureato online in mezzo a una quarantena, i miei non mi hanno visto laurearmi e in più non farò mai una festa di laurea, quindi non celebrerò mai con i miei amici e oltretutto mio padre è in difficoltà col lavoro. Parenzo, vaffanculo! Che voglia di cazzo, mamma mia! Vuoi sentire Efe? Vuoi sentire il turco? Vuoi sentire il turco? Ma in questo momento Ball? Sì, ma chiamare il turco. La signora Efe Ball. Sì, ma chiamare il turco. No, ma il turco tutto il giorno tutto. No, no, no, no, no. Trovi il telefono libero. No, in questo periodo, però è più facile trovarla libera, oggettivamente. Io lo dicevo in tempi non sospetti. Tu lo dicevi in tempi non sospetti. Il massimo della produttività. Sì, è vero, però adesso se la chiami è normale che ti risponda, perché normalmente non dovrebbe, diciamo, a casa non dovrebbe. Cioè, ti faccio sentire, aspetta, ti faccio sentire una cosa, senti. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Oh, oh, oh, oh, che fa? Oh, oh. Ah, signora Ball. Ma che schifezza. Signora Ball. Sì, che schifezza. Mi manda ogni tanto dei suoni strani. Io ogni giorno dico: ma dove arriverai? Cioè, cosa succederà in più oltre a questo? Abbiamo. Certo, il modello è Howard Stern, questo grande conduttore radiofonico che tu hai importato in Italia. Ma io ogni volta mi chiedo col brivido: in questi 10 anni, avendo visto di tutto, che cosa puoi fare ancora di più? Dopo aver... Cosa può che accadere? Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, cos'è? C'ha male alla gola, anzi. Non lo so. Mi ha mandato questa cosa. Testa. Ti giuro, non lo so che cos'è. Pippa, cosa fa qua? No, cosa no, fa? No, assolutamente no. Boh. Vabbè. Allora, ciao, ciao, aspetta, ciao, aspetta, ciao. Mi ha mandato un messaggio. Mi ha mandato un messaggio. Sì. Aspetta, Efe, manda un messaggio. Ho ricevuto un cliente domenica che lo conoscevo già. Questa qua, con la scusa che andava a fare la spesa da Italy, è venuto anche a trovarmi domenica mattina alle 11. Un signore, tra l'altro, anziano, quella fascia a rischio, diciamo così. Siamo stati insieme. A lui piace che io gli stringo le palle, gli ho stretto le palle per quasi 20 minuti, ha pagato e poi se n'è andato via. Evviva, sì, domenica ho fatto un cliente. Il governo non ci pensa, che devo fare? Adesso dopo il 4 maggio apro la bottega, che non è mai stata chiusa, devo dire, ma non c'era in giro. Spero che dopo 4 maggio riesco a recuperare tutto quello che ho perso in questi 2 mesi, lavorando fisicamente e virtualmente. Un bacio. Signora Efe, no, ma senta l'immagine, arriva, che c'è? Ma no. Cos'è questi gargarismi? Cos'è questa porcheria? Ma cos'è però? Tu ti immagini la scena? Ti immagini cos'è? Ti immagini la è un scena lamento, è una di... geremia. No, però, cos'è questa geremia? Vorrei che tu stasera. Vorrei che tu stasera. Cos'è sta geremiade? Posso sapere cos'è questa geremiade? Oh, vorrei che tu stasera. Ma io non capisco, ma se sta male poi mi ha mandato qualcuno. Mi ha mandato un video che non posso descriverti nei dettagli. Però posso dirti una cosa, posso dirti che devi immaginarti questa sera questa immagine, no, questo quadretto, questa fotografia, questo plot in cui c'è un signore anche anziano, come dice lei, che va a fare la spesa, probabilmente con la moglie a casa, poi in un posto vicino dove abita Efe Ball a Milano, poi a un certo punto quatto si infila a casa della prostituta transessuale italo-turca e non è che tromba, si fa strizzare i coglioni. Mamma. Si fa stringere, ma cosa c'è? Qua, ancora questo parte sarà sto rumore. Ma io non lo so. Ma... Luciano da Belluno, dai, Luciano. Ma io non lo so. Pronto? Mi avete fatto aspettare, è andato anche bene, perché se mi davate la linea subito mi avreste sentito bestemmiare come un turco. No, quello no. Voi banalizzate un po' il vostro ruolo, siete un po' superficiali, va bene, è una trasmissione leggera per divertirsi, ma dare la voce a quel trombone coglione di Feltri e fargli sparare quelle minchiate che ha sparato e continua a sparare sistematicamente è un'offesa per una miriade di persone, milioni di persone. Ma perché, che ha detto? Prima, non ho capito. Cosa ha detto? Non ho capito. Cosa ha detto che ti ha ogni volta, finché lo scrive sul libro, che vende 2 copie, una compra lui e un'altra la sua mamma. Va ma bene, che ma dici, mamma mia? Non dire che sparare a zero sui meridionali. Lui prima di sparare a zero sui meridionali ha detto che sono inferiori. Ha detto che sono inferiori. Sì, ha detto che sono inferiori. Dovrebbe fare 10 anni nel sud prima di lavarsi la bocca e poi capire che cazzo significa il sud. Si lavi la bocca. Ma che roba è? Si lavi la bocca. Ma che è sto rumore? Perché fai questo rumore? Ma che rumore fai con questo telefono? Una persona come lui, un direttore di una testata testata giornalistica che scrive degli articoli, ma è libero, ma è modo, libero parlando anche in quel modo, deve lavarsi la bocca. Io non sono nessuno, sono un semplice cittadino, ma lui non originario lo è. Del okay, sud originario del sud, ovviamente sì, perché ce ne sono talmente tanti sul nord che probabilmente qualche spermatozoo è arrivato anche da lui, probabilmente con la sembianza umana c'è anche per che quello, ma che razza di scorza è, come che stronzata, ma ti rendi conto, cioè uno del sud come il sottoscritto che ha 60 anni si fa un culo da quando aveva 13 anni in Svizzera, quando gli dicevano italiani smerda, non gli dicevano meridionale smerda, italiani smerda, io ho girato il mondo lavorando, ma uno un potrebbe, ma uno dire bene, inferiore, se un coglione del genere del spagnolo del sud mi fa girare i coglioni, se l'avessi avuto davanti gli avrei sputato in faccia. Sì, la rabbia ci sta, senti quell'altro, senti quell'altro che lo carica, senti quell'altro che lo carica, senti quell'altro che lo carica, senti la carica, senti la carica. Ma una persona che vive al sud, ma perché si deve, ma uno si sente offeso da quelle parole, quei luoghi comuni, quella sequela di luoghi comuni vergognosi, gente che si fa il culo ogni giorno, che va a lavorare, che apre la sua piccola media azienda, che va, ma che stiamo scherzando, le bellezze di ma Napoli, del sud, scherzando? Della Puglia, e arriva lui per fare al sud sono tutti dei cialtroni, ma mi sembra una roba, lo dice lui peraltro a Milano, dove in Lombardia dove non c'è nessun modello sanitario, mentre al sud c'è un modello sanitario, perché l'ospedale di Napoli è un modello nazionale. Perché non gliel'hai detto in faccia? Perché non gliel'hai detto in faccia? Perché l'ho detto, non gliel'hai detto, zittito, no. Mi avete zittito quando l'ho detto, quello borbottava, mi avete invitato, ha fatto le carezze, perché è ovvio che se c'è un pilla qualsiasi che parla gli risponde attorno, ma se c'è Feltri gli fa anche la carezza al culo. Ma vai a normale fare il culo, che no, mi avete vai buttato giù, ma il sole, ma dovresti lustrare, ma perché non vai a casa di Feltri a lustrargli le scarpe, a pulirgli le scarpe? Chiamagli, chiama Feltri adesso, vai, mettigli contro questo qui, vai, chiamalo Feltri, basta, chiamalo, un giorno faremo, un giorno faremo Feltri qua contro tutti, gli dà una guarda bella passata, un giorno faremo questa cosa qua, ma senza chiudere i microfoni, abbassarmi i microfoni, gli diamo una bella passata, gli diamo, faremo Feltri contro tutti, vai a casa di Feltri a lustrargli le scarpe. Fino ad oggi io non avrei vissuto, Feltri non ci deve permettere di parlare. Vai a lustrargli le scarpe a casa, a lustrargli le scarpe. Scusi, non Feltri, posso lustrare le sue scarpe? Posso lustrare i suoi mocassini? A chi? A Feltri, a chi? I suoi numerosissimi mocassini. Dai, i suoi, ma come ti permetti a dire una cosa del genere? Ma i suoi numerosissimi mocassini, e sai che ha dei tantissimi mocassini, no? Probabilmente sei lecca pure. Vabbè, perché quello è lui. Ciao, non ciao, è altro che ciao, un. Ciao, ah, vabbè, lasciamo stare, dai. Ciao, ciao, ciao. Sai chi mi manca come collezione? Sai chi mi manca come collezione? Mi manca il Cavaliere Auriemma. Mi manca il te lo ricordi il Cavaliere però Auriemma? Secondo me sì, come no, quanto Italia mostri, morale, Italia, me, morale, sì, Italia morale, Italia morale, Italia morale, Pomezia, tutti a Pomezia, mandateli tutti a Pomezia, diceva sempre, a Pomezia. Cavaliere, sono Cruciani, come andiamo? Come stai, Cruciani? Cavaliere Auriemma. Sempre tutto a posto. Cruciani, sei numero uno nel mondo. Grazie, Cavaliere, grazie. Parenzo, non dici detto niente. Dal Cavaliere Auriemma. Sì, no, sono felice che il Cavaliere Auriemma ti riconosca come uno numero uno del mondo. Non è un cretino, Cavaliere. Ma se tu stai in da sette, com'è oggi, stai a Milano? Stai a Milano, tu stai? No, io sto a sette, no, io sto a Roma, Cavaliere, a Roma, no, Parenzo sta a Roma. Cruciani sta a Milano, io sto a Roma. Io penso che sei a Milano oggi. Tu ieri l'ho visto sulla sette, l'ho visto. Sì, ma quando ieri? L'altro ieri si è rintronato il Cavaliere. Space, dai. È uguale. Scusami, Cavaliere, ma come andiamo in questo periodo? Che sta succedendo? Ti stanno tenendo pure a te gli arresti domiciliari? Non ne puoi più, immagino, Cavaliere Auriemma. Ho denunciato Conte, non so se ha letto comunicato stampa. Pure tu hai denunciato Conte. Io ho denunciato Conte perché sono 60 giorni che sto a casa. 60 giorni che sto a casa, senza uscire mai. E allora? E perché hai denunciato? E allora ho denunciato Conte. Perché hai denunciato Conte? Scusa, pure. E per quale motivo che sta a casa, sì, arresto domiciliare? Chi mi ha detto? Ha detto qualcuno? Ha detto Conte? Chi è Conte? Ma capito, chi è Conte? È il Presidente del Consiglio che fa dei decreti. Ma non è stato aperto, non è stato eletto da nessuno, non è stato eletto dal popolo italiano. Ma ho capito, però è il Presidente del Consiglio. Tu l'hai denunciato. Ma non è stato eletto dal popolo italiano. Sì, d'accordo. No, però facciamo un attimo di ordine. Cruciani, fammi Italia capire, morale. Di ordine. Italia morale, che non so neanche che cazzo sia, sto signore qui ha denunciato Conte. Ho capito giusto? Perché sta da 60 giorni. Capito tutto bene. Capito bene. Perché sta da 60 giorni a casa. Da 60, esatto. Da 60 giorni a casa. Come ti senti a casa? Prigioniero praticamente. Prigioniero politico. Ora faccio i comunicati stampe. Ho capito. Che comunicato stampa fa? Chi se ne frega? Sempre, che comunicato stampa? Ma tutti i giorni a chi lo manda? Chi se ne frega di quello che lo dice lei? Te, però. Lo mando pure a te. Ma io non voglio avere nulla a che vedere con i suoi comunicati stampa. Ma perché non vuoi leggere? Perché me ne fotto. Posso fottermene? Me ne fotto. Io guardo tutte le sere il telegiornale di Mentana e nel telegiornale di Mentana non vedo citato il comunicato stampa del cavaliere Auriemma. Perché secondo te, Cruciani? Ma Mentana non leggo come comunicato stampa mio. Non leggo. Secondo te il direttore Mentana legge il comunicato stampa del cavaliere? No, secondo te oggettivo? No, non lo dice, non lo legge, non lo legge. Meno ma non legge neanche un comunicato stampa da 5 stelle precedentemente, tanti anni fa. Scusami, cavaliere, io voglio capire una cosa, ma che ci trova di strano lei in questo virus? È tutta una farsa, è tutta la fregatura, dai. L'ho detto il primo giorno io. Ma cioè che vuol dire tutta la fregatura? Il primo giorno l'ha detto. Ricordo un attimo, ti faccio una domanda sempre, non so se io ho mandato a dire a Conte, ha comprato asciugamani, ha comprato di cose, ha comprato 500.000 euro di merce, si ha messo a casa a Palazzo Chigi per sicurare. Beh sì, questa aspetta, traduciamo, ha comprato delle cose per Palazzo Chigi, sì, dunque? No, ma ha comprato per lui, dico, vedo strane, che a Milano di povera gente anziana non le ne morì. E allora? Lì è tutto un business, fratello mio, è tutto un business lì. Eh sì, ma ho capito, ma tu hai paura del coronavirus o no? Perché hai anche una certa... Non ho paura, io sono a casa, non ho paura. Non hai paura del coronavirus? No, perché c'è paura, io non ho paura, io sono pulita, quando vado a scopare, scopo e basta. Ma dov'è che vai a scopare, scusa, dov'è che vai a scopare? Anche adesso? Faccione a casa. Ah, anche adesso fai venire le mignotte a casa? No, non mignotte, gente per bene. Adesso sai, se trovo spesso parecchia gente per bene. Ma che vuol dire per bene? Hanno bisogno di quattrini. No, ma ho capito, ma che vuol dire gente per bene? Hanno bisogno di quattrini, dunque sono prostitute o no? Non sono prostitute, ma è una specie di prostituto. Quante volte le fai venire a casa? Una volta ogni 15 giorni. Sì, vabbè, tanto più di tanto non ti può tirare, diciamo, no? O sì. O no, cavaliere. No, dire. Ma tu che c'hai più di 70 anni, c'hai, cavaliere. Così tanta, mo mi canta un'altra volta come sindaco di Roma. Sì, pure. Ma io voglio capire, come le chiami queste qua? Niente, le fai venire col taxi a casa tua? Col taxi, arrivo col taxi che fai? Io abito via Veneto, Via Veneto? Come via Veneto? Via Veneto. Dove sta? Questo chiama il taxi, una gentile signora che alla fine si fa pagare. E come avviene la cosa sessuale, cavaliere? Cioè, ma com'è? Una cosa orale oppure c'è la penetrazione? No, per capire. No, quando fai a me? 2 ore, 3 ore, 4 ore? C'è il bocchino oppure c'è la penetrazione? Mia, per capire, cavaliere, ma tutto, faccio tutto, non ti preoccupare, faccio tutto. Dai, comunque, ma di cosa viene questo cavaliere qua? Di soldi. Chi? La Banca Popolare di Novara mi ha rubato 2 miliardi, sono in causa. Ma ancora? Ha capito, non ha capito. Ma la banca in causa? La Banca Popolare di Novara. Ma non facciamo noi, ma che ne sappiamo noi, scusa? Cruciamo, prendi le distanze, che ne sappiamo noi? Ma quale carta a tribunale? Ma senti come parla manco italiano questo? Ma di che stiamo parlando? È uguale, io sono è uguale. Ciao cavaliere, mi raccomando, continua a trombare. Ciao cavaliere. Sempre. Sì. Ciao. Ciao cavaliere. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon. Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. La Zanzara. Auf! Credi che questa mia non sia poesia? Guarda i prodigi della mia malinconia, sarò la sintesi. pazzi, del delirio, dei matti. Vi mostrerò i fiori migliori negli anfratti. Auf, bolgia di critici osannati. Demolirò gli assiomi cementificati, dove i poeti laureati si muovono sparuti. Stupirò con la ballata dei rifiuti. Hey! Ormai è tutto degradato. Speciale Baudelaire, un amico, se ci parli per un po'. Vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta paura? Che cosa c'è? Ma scusate un attimo, ma quella De Mari lì, chi cazzo è? Ma cosa si fuma? Ma cosa si beve? Ma come si permette una cretina del genere di dire fuori, di dire certe cose? E in più la intervistano anche? Ma io non lo so, ma in che mondo siamo? Ma in che paese di merda viviamo? Dico quel signore che ha chiamato poc'anzi, che si faccia le pippe, si metta davanti allo specchio, così si sentirà in compagnia, sto stronzo. Ho denunciato Conte, non so se ha letto Comunicato Stampa. Pure tu hai denunciato Conte. Io ho denunciato Conte perché sono 60 giorni sto a casa. Allora abbiamo Cristian da Vicenza. Mi segnalano una cosa importante. Oggi è il compleanno del grande Giovanni Benincasa, al quale facciamo gli auguri, ovviamente un grande autore televisivo. Ho visto ieri sera in diretta con Pardo, penso. Bravo, il grande Giovanni Benincasa, ed è anche il compleanno di Gino Strada. Ma chi se ne frega del compleanno di Gino Strada? Ma non me ne frega niente, il compleanno di tante persone, che me ne frega di Gino Strada? Non lo conosco. Cristian, dimmi. Cristian, Gino Strada e Giovanni Benincasa compiono gli anni nella stessa giornata. Dimmi. Ciao, Giuseppe, buonasera. Dimmi. Niente, volevo fare un intervento, insomma. Fra poco è grande collegamento, fra poco grandissimo collegamento, lo chiamiamo il professor Tarro, vi dico, il grandissimo virologo Tarro. Vai Cristian, dimmi. Sì, niente, volevo solo fare un intervento rispetto a quello che ho sentito, insomma, l'ultima puntata della Zanzara. Dimmi. Diciamo che, allora, riguardo all'emergenza è stata gestita chiaramente nel modo sbagliato, chiaramente tutti vogliono riaprire, si vuole uscire, si vuole andare a bere, si vuole scopare e tutto quanto. Però una cosa che secondo me non si dice, e qui si vede un po' che secondo me la memoria corta, insomma, degli italiani, che ultimamente, cioè, nel senso, è stata gestita comunque in un certo modo. Un mese fa, non dimentichiamoci. Sì, cosa vuoi dire? Andiamo al sodo, Cristian. Cosa vuoi dire? È chiaro che quando metti la gente dentro casa le cose migliorano, no? Migliorano da un certo punto di vista, migliorano, su quello non c'è dubbio. Tranne forse in un luogo non lontano da qui. Però voglio dire, io penso che su questo anche David sia d'accordo con me. Ma David è d'accordissimo con te, ma non è quello il punto. Ricordiamoci cosa abbiamo evitato, ecco, cosa ci ha evitato con queste misure che adesso. Anche qui alla Zanzara sento che scienziati o comunque gente. Ma ragazzi, ma questi hanno litigato ogni secondo, i virologi, su ogni fronte. Ciao Cristian. Hanno litigato ogni secondo, però non dimentichiamoci che è un'emergenza. Chiamiamo Tarro, dai, Tarro. Virologo Tarro, come sapete, uno che ha combattuto il colera, mi sembra, a Napoli tanti anni fa, è il grande nemico di Burioni, perché l'altro giorno Burioni ha detto di Tarro, no, lui candidato Nobel, allora io sono Miss Italia, diciamo, Miss Italia. C'è la grande lotta tra i virologi alla Zanzara, chiamiamo Tarro. Pronto? Sì? Professore? Sì, pronto. Sono Cruciani, come stai? Bene, bene. Io vorrei solo gridare molto forte Tarro. Cioè, no, ma io dico una cosa, amico mio. Siamo tutti quanti in attesa di una parola importante, di una speranza. Tu hai detto che dobbiamo usare quello che abbiamo, cioè il sole, il mare, i parchi, uscire. Ma anche ho detto in particolare per le persone che stanno veramente male, di usare gli anticorpi di quelli che sono guariti. Cioè, anticorpi di quelli che sono guariti. E poi uscire, tu dici, bisogna uscire all'aria aperta. Sì, assolutamente. Cioè, bisogna dare il via libera, finirla con lockdown. Esatto. Cioè, questo lockdown ormai è senza senso, secondo te? Ma siamo solo noi in Italia lo stiamo facendo. D'altronde hanno aperto. Sì, ma in che modo aprire? Sono, sai? Sono già in fase seconda, no? No, certo. Molti paesi hanno già iniziato, eccetera. Sì, che io sappia, siamo solo noi rimasti in questa situazione. Ma perché? È controproducente, secondo te, ormai rimanere dentro? Ma è inutile. Stare dentro non va bene. Cioè, io non posso andare... Per dire, non posso fare il training, non posso fare prendere l'area salubre, non posso prendere il sole. E i bambini hanno bisogno di questo, non possono stare dentro. Scusami però, amico mio, c'è una cosa. Non c'è il rischio che ritorni l'infezione? Questo molti si dicono, no? Cioè, molti dicono, se diamo via libera ai movimenti, eccetera, eccetera, se il lockdown finisce, c'è il rischio di ritorno dell'infezione. I virologi che ce lo stanno dicendo da tempo, pure troppo forse, ritornerà il pericolo. Ma senti, ci sono vari approcci. C'è la ricetta israeliana, sai qual è? Isolare gli anziani e fare circolare il virus fra i più giovani. E questa è la tua ricetta, diciamo, sin dall'inizio? Ma in sostanza, sì, ma diciamo, è ovvio ed è giusto che mi debba preoccupare di altri problemi di patologie ed eventualmente ovviamente di una certa età. Però ciò non toglie che gli altri debbano vivere. Tu hai dato anche una speranza, caro Tarro. Sparirà, sì, col caldo. Sì, esatto. Cioè, secondo te morirà? Secondo te morirà? Ho visto c'è un sacco di altri, diciamo, di dichiarazioni in tal senso. Parlano un sacco di tuttologi che non sanno per niente. Cioè, Galli, per esempio, dice, ti ha criticato perché dice, beh, ma sì, ma sull'estate non ci sono basi scientifiche. Rispondi a Galli. Io sto sostenendo alle latitudini africane questo non succede, rimane solo un'endemia, cioè per pochi casi il contagio non avviene. Per non parlare poi di Burioni, naturalmente, che ti ha detto ma quello. Ma Burioni non lo considero proprio. Ma perché non lo consideri? Ma guarda, a parte tante situazioni che non devo andare in dettaglio, ma basta che dici che il 2 febbraio ti ho detto che non ci sarebbe stato un singolo caso in Italia. Dopo. Come lo consideri tu, non esperto? Come lo consideri un personaggio? No, solo... ma per tutto quello che dice, penso che ci deve mettere male i capelli. Ti rendi conto che a parte questo fatto qua di non prospettare il 2 febbraio già un'epidemia che senz'altro era in corso, ma c'è anche da dire anche quello che sostiene adesso col fatto del vaccino, cioè sostiene il fatto di una mentalità quasi hitleriana. Ma per te il vaccino è inutile? Per te il vaccino è inutile? Ma il vaccino non è inutile, non c'è. Ma per cui tu dici sostanzialmente che il fatto di provare la sperimentazione è una cosa quasi nazista? Ma non la sperimentazione come la vorrebbe fare lui, cioè c'è un prodotto che non c'è nessuna regola di sicurezza. Già di darlo diciamo a dei cosiddetti volontari, ma questo non esiste più, cioè eticamente non è possibile. Io ho fatto parte anche del Comitato Nazionale di Bioetica, queste cose non sono proprio ammissibili. Vabbè, sarebbero nemmeno pensabili. Se siamo ancora fermi a queste mentalità, allora non facciamo nessun progresso. Magari lei è semplicemente con teorie un po' antiquate, ecco, no, la scienza che è antiquata, lui pensa al contrario. No, non lo so, teorie, è l'esperienza, cioè gli altri non hanno esperienza, gli altri tutti questi che parlano, non sono dei tuttologi. Ho capito, ma qualcuno potrebbe dire, ho risolto il male oscuro, ho risolto le epidemie influenzali a Napoli. Comunque, professore, solo per poi io mi ritiro e lascio Cruciani. Ma è incredibile che la scienza si accapigli così, secondo me. Cioè, questi cazzotti che vi siete dati con il professor Burioni, io ripeto, non voglio avere a che fare assolutamente. È un grande scienziato. Perché ma è uno dei più grandi scienziati a questi livelli. Voglio capire una cosa, scusami Tarro, ma lei ha paura, professore, o no? Come si pensa, ha paura, lei avere paura. Il virus è uscire di casa ad ammalarsi? Assolutamente non lo so, professore. No, io sono un biologo che ha lavorato in laboratorio con virus seri, tipo il virus della scimmia, dove eventualmente soltanto Semmia e io lavoravamo e nemmeno i tecnici erano ammessi. Cioè, perché questo qua non è un virus serio, cioè questa qua ma è un virus che può dare, diciamo, un problema, ma abbastanza risolvibile. Ma c'è gente che muore, come non è serio, professore? Gente che viene intubata, che muore, che arriva in condizioni disperate all'ospedale, non respira, polmoni che in affanno. Risponda a questo. Ma perché allora? Perché c'è un tale aumento di mortalità? Vogliamo vedere le statistiche dell'anno scorso, degli ultimi anni? Perché secondo lei alla fine la mortalità non sarà molto diversa? Assolutamente no. Senta, un'ultima cosa, professore, ma quando lei parla di tuttologi, a chi si riferisce in particolare? Anche a Ricciardi, a questi qua, a questi che stanno guidando il governo? Beh, ma visto che il governo, vediamo che è guidato, che non si capisce niente. C'erano i bollettini di guerra delle 18, meno male che li hanno sospesi. C'erano, per quello anche diceva lei prima, il fatto delle mortalità. Ci siamo trovati in pochissimo tempo, cioè in poche settimane, quello che un'epidemia influenzale, diciamo, lo vede nell'arco di 6 mesi. Noi siamo... Ma l'anno scorso abbiamo avuto 6 milioni di influenzati e 10.000 vittime. Ora, a questo punto, il numero delle vittime possono essere in questo momento maggiore, però nell'arco di tutta la stagione, poi alla fine, più o meno, non ci sono queste grosse cifre. Lei sta dicendo che siamo agli arresti domiciliari per nulla, cioè per nulla. A questo punto sì, perché hanno aperto dappertutto, siamo solo noi che siamo ancora agli arresti domiciliari. Noi a Napoli abbiamo avuto ieri 0 casi. Conte oggi ha detto mascherine e distanza fino al vaccino, una follia. No, non comune, peggio. Cioè, solo un idiota può dire queste cose. Addirittura. Come un idiota? Ma è normale. Il Presidente del Consiglio? No, facciamo. Ma come è normale? Aspetta. È il Presidente del Consiglio. Ma si rende conto che non c'è un vaccino? Si rende conto che un vaccino a me se non concesso che ci sia non sarà prima di un anno? Sì. Si rende conto di questo? Allora come uno fa di tutte queste pesterie e tutto altrove invece sono tutte a posto? È chiaro che allora nell'ambito di tutte le nazioni ci sono ognuno, Presidente del Consiglio, allora sono tutti tranne qualcuno che ovviamente è andato di testa. Professore, grazie, arrivederci, a presto. A presto. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. La Zanzara. Comunque, Cruciani, tutti che stanno a parlare di ste pippe, tutti si fanno le pippe. Io tante pippe mi facevo prima e tante pippe mi faccio adesso. A me, guarda, il Covid mi ha cambiato tante cose, ma la mia frequenza di pippe è rimasta sempre quella, abbondante, pressoché quotidiana, la pippa quotidiana. Buongiorno Cruciani, ho un quesito per lei. In tempi di pandemia mi è stato offerto da un ricco, come lo definiamo, proprietario di 3700 case dell'Altopiano, però è inchiavabile, Marina. Un contratto di prestazioni sessuali. Io e mio marito, visto la cifra che insomma quest'uomo è disposto a dare pur di avermi come schiava d'amore o come badante d'amore, perché comunque ci stiamo anche pensando, e adesso mi girerà il contratto l'avvocato e poi te lo giro e se vuoi ne discutiamo in radio. Se vuoi si può anche fare. Ma caro è un David. Contratto illecito, non si può fare un contratto su prestazioni illecite. Qualunque studente di diritto del primo anno dirà a questa signora no, che è un contratto nullo perché è illecita la prestazione, quindi non si può mettere nero su bianco una sciocchezza simile. È qualunque vero. Studente di diritto all'ascolto chiami per spiegare questo elementare principio. Un contratto che abbia come dire, dentro delle prestazioni anche generiche, poi è inteso magari che sono delle prestazioni sessuali, secondo me avrebbe anche ragione di esistere, non so, probabilmente è illegale. No, ma è illecita la prestazione. Ma perché dovrebbe essere illecito? Non capisco. Perché uno è illecito l'oggetto, dal punto di vista giuridico, è illecito mamma l'oggetto mia, del contratto. Mia. Quindi Rosario, tu non puoi costruire un contratto che magari ho capito. È corretto in punta di diritto, ma è illecita perché la prestazione queste, è illecita. Come ti piaccio così, in punta di diritto, ma, Rosario. Come te l'ho spiegata però? Ma come te l'ho spiegata? Ma dai, che te l'ho spiegata noiosa. Dai. Noiosa, molto noiosa. Non funziona così, non funziona. Dai, il diritto in televisione, per carità. Dai, quello lo fa Zagrebelsky, dai. Fai il 2% fai a meno magari facesse 2 tutti Rosario. I programmi così distruggete il servizio pubblico, da Rosario provincia di Catania, da. Lo dica a Parenzo, però Freccino, mica sono io, almeno io parlo di figa. Non fa ascolto la televisione, appunto, la televisione, sì, un'altra cosa, dai. Rosario, dimmi. Il dolore. Ciao, il dolore. Ciao. Allora, io chiamo da Catania e... Sì. Vabbè, niente, abbiamo la conferma che Feltri è un razzista, non so se l'ha mai detto prima, lui in genere si dice razzista, no, io non sono razzista, io no, ha detto che i siciliani sono inferiori. Siamo inferiori, vabbè, poi... Così ha detto, i meridionali sono inferiori, che ha detto i meridionali? Sì, sì, ha detto i meridionali sono inferiori. Forse i campani, dice, era, non so se i meridionali o i campani. Vabbè, scusami, siccome faccio parte del Regno delle Due Sicilie, più o meno... Beh, tu se ti senti parte del Regno delle Due Sicilie, benissimo, sei padrone, di sentirti parte del Regno delle Due Sicilie, che è una cosa ridicola, però. Insomma, è chiaramente razzista. No, ma io, quello era una provocazione, il Regno delle Due Sicilie, per carità, Feltri è un razzista. Tu pure, tu sei un razzista. Io sono razzista. Sì, perché sono razzista. Feltri è razzista. Siamo arrivati al fatto che io sono razzista. Vabbè. Certo. Ma sulla base di cosa? Sulla base sulla di che? Di che quello cosa? Che hai commentato su Feltri. Ho commentato, io non ho commentato niente su Feltri. Ha detto una cosa, si assume la sua responsabilità di quello che ha detto. Che cazzo vuoi da me? Solo che lui è direttore di un giornale nazionale. E prenditela con lui, che cazzo vuoi da me? Capito? Non è un camionista che guida il camion. Ma vai a dire a lui, denunzialo, che vuoi da me? Ma che denuncio? Ma io denuncio Feltri, ma neanche se non ci avessi Che ne so, in quanto meridionale, colpito da questa botta di... Ma sì, sono colpito, ma sai, basta non comprarsi Libero, che non l'ho mai comprato, quindi... Io, se non l'hai mai comprato, continua... E non sei l'unico, tranquillo, non sei l'unico. Sì, però mi dà fastidio, capito, certe cose danno fastidio. Poi gli chiedi a Feltri quanti settentrionali sono morti nella lotta alla mafia. Quanti settentrionali? Sono morti, ammazzati dalla mafia per combattere la mafia. Dipende che cosa intendi per mafia, perché che vuol dire mafia? Mafia, quelli che hanno ammazzato Falcone, Borsellino, Cassarà. Ma se quelli sono insediati, se quelli sono insediati al sud, è evidente che ammazzano la maggior parte della gente, l'ammazzano al sud. Che cazzo di ragionamento è? Ma è normale, sì, no? Ma quanti settentrionali? Una cosa, sei incredibile. Sono morti nella lotta alla mafia. Ma non lo so, ma che c'entra? Giusta provocazione, giusta provocazione. Se non lo sai, giusta provocazione, cioè, mentre quello lì se ne stava lì a Bergamo, c'ha ragione sto ascoltatore, e leggerai quanti sono stati settentrionali, mentre quello se ne stava lì a Bergamo a dirigere quel non giornale. Ma non faccio la differenza tra settentrionali e meridionali ammazzati di mafia, e Feltri la fa. Feltri fa la differenza, però, tra settentrionale e meridionale. Beh, qualche differenza, diciamo, dal punto di vista sociale, appunto, eccetera, ci sarà pure, no? Michele da Foggia, vai. Ciao Cruciani, ciao, buonasera. Dimmi, Michele, dimmi. Senti, io volevo dirti che questi virologi hanno rotto veramente i coglioni. Cioè, secondo loro dovremmo vivere per anni, finché non esce il vaccino, ammesso che esca... Distanziati un metro, non puoi darti un abbraccio. Distanziati, certo, sicuro. Certo. Non puoi trombare. Quello in primis, ovviamente. Ma ragazzi, ma è impossibile, dai. Un abbraccio. Esatto, no. Bravo. Bisogna... Cioè, ma che cazzo, ma pure in testa loro 10.000 lauree, tutto quello che vogliono, e non riescono a capire che è una cosa inattuabile. Primo inattuabile, bravo, ma poi che ragionamento è? Se fai uscire la gente, è chiaro che prima o poi la gente, mica sono degli automi che devono stare a distanza, cioè come automi a distanza di 2 metri l'uno dall'altro, ma è impossibile. Un minimo, abbiamo capito le regole del distanziamento, cerchiamo di rispettarle in modo da ripartire. Ma non diciamo stronzate, è una puttanata, inattuabile, tra l'altro. Ma è inattuabile, ma poi così sono bravo anch'io a fare il virologo. Stiamo distanti e non si diffonde il virus. E grazie al cazzo, non è che ci volano loro. Quindi cosa dovevi? Il virologo, tu invece il virologo che chiama la zanzara che dice? Per combattere il virus devi mantenere il distanziamento, ma ripartire. Fermala, devi trovare un modo. Aspetta, Michele, chi c'è? Luana Borgia con noi, grande Luana. Luana? Chi è Luana? Luana, ciao a tutti. Uno dei miei miti assoluti del cinema porno. Era soprannominata la duchessa dell'hard quando faceva porno. Che stai facendo? Mi dicono che in questo momento stai facendo Io in questo momento sono in cam con i miei fan. Io ho trovato una soluzione, faccio sesso virtuale. Beh, quello come molte persone, diciamo, del tuo mestiere, di persone, come, con un sacco credo. Di persone. Comunque, ma che stai facendo in questo momento in cam? Scusa, con i tuoi in questo momento, guarda, sono in topless, in perizoma, e mi hanno chiesto di farmi una masturbazione. Ti hanno chiesto di una masturbazione. Luana Borgia, una masturbazione. Vabbè. Beh, procedi se vuoi tranquillamente, senza problemi. Che necessità c'è che noi partecipiamo? Non c'è nessun problema, ragazzi. Oh. Vai. Ma che noi partecipiamo a sto schifo? Che bisogno c'è? Ma che schifo? Perché la masturbazione è uno schifo. Collettiva. Vai live! È una cosa naturale. e masturbarsi. Chi è che non, ma chi ho capito, non ma senza dubbio, ma ognuno se lo faccia a casa propria, dell'intimità, scusami, del proprio contesto. Ma la verità, ma infatti, io scusami, sono a casa mia, non sono in giro. Esatto, io, è in casa. No, ma è il contesto Cruciani che l'ha chiamata, gentile signora. No, ma scusa, io è una... sono qua in casa mia, io non esatto, sono... la signora Luana Borgia, poi dovresti anche omaggiarla perché ha fatto dei film che restano nella storia del cinema, la signora Luana Borgia. Chiedo scusa se non ho visto i suoi capolavori. Dimmi, che io prossimamente, finito questa pandemia, girerò un film porno. Cioè torni di nuovo a girare il porno, non ho capito. Sì, girerò un film porno. Cioè, ma tu non giri film porno dal 2009, da 10 anni quasi, da più di 10 anni. Sì. Perché cosa fa Jurassic Park? Torni al porno. Che gira Jurassic Park? Faccio gira un film, sì, molto divertente con dentro dell'ironia anche. Pure, quindi, ma non c'è bisogno. È a puntate. Però c'è bisogno. Sarà una grossa sorpresa. Ma chi è? Maestro Salieri per caso, no? Non ti dico niente, ma sono il primo. Guarda, il primo sarai, lo saprai tu, ti manderò a casa direttamente. Non ci dormirò la notte, guarda. Allora, come va? Innanzitutto, con che ti masturbi tu in questi giorni? Non solo per i tuoi fan. Allora, io sono single, sono chiusa in casa da 2 mesi da sola. Stai impazzendo completamente? Sì. Com'è? Stai impazzendo senza pisello o no? Io ti giuro, io sto dicendo ai miei amici qua delle camere, ragazzi, il primo che becco quando finisce la pandemia lo distruggo. Cioè il primo che becchi dopo la fine, sì, del... Esatto, cioè, non che... esce vivo. Cioè che fai? Cioè, te ne scegli uno oppure vai sul sicuro? Già sai. No, qua... vado sul sicuro, conosco la persona con cui andare. Vai uno sul... E chi è il fortunato? Chi è il fortunato, amica mia? Non si può dire. Vabbè, uno. Volevo sapere se volevi essere tu il fortunato, amore. Vabbè, tesoro, ma è complicato, ma diciamo che è complicato. Guarda, ma... non ho capito, ti legherei su un letto pure nudo, pure ti ammanetto, ti nutrisco con la flebo, giustamente perché devo nutrire la flebo. Dentro la flebo, oltre a passare gli alimenti, ti metto un po' di Viagra, così per una settimana c'hai sempre il cazzo duro bello in tiro. Io ti sfrutto per una cioè settimana. Tu vuoi sfruttare una persona alla fine della pandemia, metterlo lì a casa e scopartelo per una settimana, diciamo questo. Bravo, devo recuperare tutto il tempo perso. Vast programma, spiegami un attimo, una cosa. In questo periodo, in questi 2 mesi, quasi 2 mesi, mi masturbo oppure uso i miei toys? Vabbè. Che tipo di toys, cioè tu che cosa preferisci? Che tipo di masturbazione preferisci? Perché molte persone che ascoltano sono interessate alla, ormai stando in casa ci sono molte donne single come te che naturalmente fanno collegamenti con i loro fidanzati, con i loro amanti, si masturbano in cam, eccetera eccetera. Tu, al di là della questione dei fans, con chi è che fai, da solo oppure ti metti in comunicazione con qualcuno che a sua volta si masturba in telecamera, diciamo col telefono eccetera? No, a volte mi metto in comunicazione con qualcuno e si fa sesso virtuale, lui si masturba e io immagino la scena, gli parlo e mi masturbo anch'io, uso questi toys e raggiungo l'orgasmo. Ecco, ma qual è il toys preferito di Luana Borgia? Che tipo è? Piccolo, grande? Allora, il toys mio preferito, che mi fa godere come una matta e mi fanno godere i fan, si chiama Lush. Praticamente è un toys che tu inserisci dentro, all'interno della vagina, sì, che c'è una batteria, mamma mia, che i ragazzi, ti dico, ragazzi, chi ti fa godere di più? Allora vedi che iniziano a scendere i token e vedi che l'uscio vibra e ti fa godere. Cioè, ma non deve essere necessariamente grosso dunque questo vibratore, no, giusto? No, è piccolino, è una vagina che si inserisce all'interno della vagina. Ho capito, perché tu sei amante delle, in generale delle grosse misure oppure no, oppure delle piccole deve essere normale la misura. Ah, normale. Non deve essere troppo lungo che sfondi, troppo largo che slarghi, ma duro che duri. Cioè, per cui sì, questo è un classico, diciamo. Questo però è una buona notizia per chi, non lo so, come Parenzo. Che succede? Ti stanno chiamando? Sono i fan che chiamano su Skype. No, scusami, questo è interessante perché persone come Parenzo, che sono dotate, diciamo, di misure non particolarmente prestanti, possono essere tranquilli da questo punto di vista. Ma io ti querelo definitivamente. Devono soddisfarla, non c'entra la grossezza, la lunghezza o quanto. Ma io, come sapete, non partecipo mai a questo tipo di conversazioni. No, ma è interessante anche perché le reputo di una volgarità inaudita. È interessante, ma no, per te la volgarità mi fa anche un po' senso, sta signora qui. Che si esibisce pubblicamente. Luana Borgia, il confine, amico mio. Dai, su. Luana Borgia è uno dei miti del film porno, amico mio. Ma non l'hai visto? È praticamente mia coetanea. No, ti giuro. È mia coetanea, ma ti giuro, è mia coetanea. È una nonna. Ma quindi. No, ma scusa, una nonna. donna. È ma Jurassic Park. Ma dillo di qualcosa. Ma è una vecchia di 50 e passa anni. È una vecchia di 50 anni. Dice al tuo amico, se dice che io sono così vecchia. È una vecchia, ho 55 anni. Un Skype con me in diretta, poi vedi. Ma non ho nessuna intenzione, signora. Mi dispiace. Vai, di vai a vedere la vecchia Skype. Vediamo se è vecchia. Vediamo se è intenzione di andare. Ti faccio vedere io. Ma guarda, che ma te se magna, come diceva, come diceva cosa, come diceva una volta Semproni, te se magna proprio così. Bravo, te se magno tutta io. Ma quella ti mangia. Qual è la tua, diciamo, la cosa sessualmente, cara Luana? Lo vogliamo dire ai nostri ascoltatori, la cosa che ti fa godere di più, cioè la situazione sessuale che ti fa godere di più, sia nelle scene che nel privato, ormai le scene non ne fai più. Sì, vabbè, io adoro soprattutto il rapporto anale. Eccolo qua, molto bene. Io impazzisco per il rapporto anale. Sì. Per il rapporto anale impazzisci. Dunque, là bisogna essere prestanti, però, per quello, cioè, diciamo la verità, bisogna essere prestanti. La prima volta è l'uomo, dico, l'uomo, non è una cosa di tutti il rapporto anale, non è che tutti quanti lo possono fare facilmente. Bisogna essere particolarmente, diciamo, adatti a quella roba là, no? O no? No, ma sai cosa? Sì, ti devi piacere, poi devi essere portata per fare rapporto anale. Non tutti lo fanno, eh? No, appunto, dico, uomo, dico, no? Cioè, scusa, tu non avevi un compagno fino a poco tempo fa con cui facevi scambismo? Sì, ma purtroppo non mi soddisfava abbastanza il mio compagno, allora da 2 mesi sono single da questa parte. Sei single? E non ti manca? Di un fidanzato. Ma in questi 2 mesi non ti è mancato tutto il mondo? Tu sei fatto scambismo, cose di questo tipo? Non ti ma sta mancando? Io sto impazzendo, guarda, io i primi tempi scleravo, ma dopo vabbè, si ritornerà prima o poi alla normalità, penso, no? Ma guarda, amica mia, lo sai qual è il dramma vero? Che i rapporti personali, cioè i rapporti di pelle, i rapporti di sensazioni, sono quelli che adesso sono minacciati, capito? Per cui appunto, mi mancano tantissimo. Io ero abituata a viaggiare, andare nei miei locali, avere contatto con le persone, fare i miei show, andare in locali di scambio di coppie. A me mi manca tutto questo. Sai che c'è il mio regista che è appassionato delle tue labbra vaginali, così mi ha detto prima. Cioè, appassionato. Ma se vuoi, dopo digli al tuo regista, se vuoi, dopo gli mando una foto. Cioè, dice che quando vedeva i tuoi film, quando vedi i tuoi film, che particolarità hanno? Scusa, le labbra vaginali, evidentemente erano. Magari erano carnose, ritoccate, non lo so. Sono cosa. Belle e carnose. La duchessa dell'Ard, caro Parenzo, la duchessa. Comunque, dille al tuo amico, se vuole, gliela mando una foto tramite Skype delle mie labbra vaginali. No, signora, la ringrazio molto, la ringrazio molto. Non è, diciamo, il tipo di, come dire, di affair che mi interessa. Quindi continui pure con le sue splendide attività. Ma cosa che interessa? Si può sapere cosa ti interessa? Guardi, a me ad esempio piace molto approfondire con il professor Zagrebelsky tutta la questione relativa appunto allo Stato di diritto, all'evoluzione della nostra democrazia, tutti i problemi legati alla democratura di Orban. Questi sono gli aspetti, diciamo, che mi piacciono di più. Lo Stato di eccezione. Esatto, l'Unione Europea, la questione appunto del MES, l'accordo che... Questo è la, se lei... Quindi a te proprio di sesso non ti interessa? No, proprio. Non gliene frega niente. Non gliene frega niente. Non è come te, Cruciani. Dai. No, assolutamente. nella maniera più assoluta. Vabbè, amica mia, ti abbraccio, ti ringrazio. A presto, ciao. Arrivederci, ciao, signora. Buona serata, ciao, ragazzi. Arrivederci, ciao. Signora. Grazie. Siamo qui, amico mio, siamo qui. Chiuso. E viva, possiamo solo dire una cosa. No, che chiedete? Possiamo solo dire una cosa, lo sai. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Oh, oh, oh, oh, oh.